Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Tenera Amata, puntata numero 32. Presumibilmente, qui è una notizia non molto lieta, ma potrebbe essere la penultima, perché siamo quasi arrivati al termine. Forse oggi sentiremo già il termine della storia, salvo poi andare a vedere l'epilogo. E qualche ultima considerazione conclusiva su questo viaggio nella quinta dimensione che ci ha fatto fare questo testo, questa rivelazione avvincente, anche se certamente con degli elementi potremmo definirli al momento problematici, in quanto non ancora per ora facenti parte del Magistero della Chiesa, quindi come sappiamo, lo ribadisco ogni tanto perché va sempre bene, questi cicli di catechesi, diciamo così, un po' sul mistico, nel senso che approfondiscono, elaborano, studiano di fatto una rivelazione privata, è quanto, diciamo così, di più accessorio e libero possa esistere, nel senso che c'è assoluta libertà di dare o non dare credito, no? È chiaro che occupandomene non me ne occuperei se non le ritenessi verosimili, attendibili. Ma questo, ripeto, investe un campo, siamo nel campo dell'opinabile, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Questo sempre per mettere un po' le mani avanti, perché insomma, a volte potrebbe non essere molto chiaro questo, quindi non si presentano queste affermazioni come dogmi di fede, ovviamente. Non mi permetterei mai. Allora, ci siamo lasciati la volta scorsa, ecco, con un termine aperto, diciamo così, perché Tenera Amata stava esortando Riccardo a cercare di impegnarsi il più possibile per andare il più in alto possibile, di fatto in paradiso. E fa comprendere anche, qui siamo alla vigilia della cosiddetta festa della Divina Misericordia, festa molto bella, ma da vivere bene. Ecco, come dirò sicuramente in una delle, come dire, che farò un concetto falsato di misericordia, serve a riempire l'inferno. La volta scorsa ci siamo lasciati con i grandi peccatori che a un certo punto si pentono di vero cuore e il nostro Dio li perdona, però nel cielo non danno all'Altissimo tutta la lode di gloria che gli si attendeva da loro. E non raggiungono una grande felicità, ma come Tenera Amata stessa, una felicità inferiore, quando sarebbe stato tanto facile ottenere una maggior gloria. Su queste cose, cioè, ci sono evidentemente anche in questo testo alcune affermazioni, come questa è perfettamente conforme con la dottrina della Chiesa, quindi questa si può sottoscrivere senza tema assoluta, anzi si deve sottoscrivere. Quindi non ci si crogioli sulla misericordia e su queste cose. Noi abbiamo un tempo di vita limitato, le nostre giornate devono essere stracolme di opere buone e di opere sante, perché non avremo poi il tempo di compierle. Il grado di gloria che raggiungiamo al momento della morte corporale non aumenta neanche di un millimetro. Non è che se tu ti fai 500 anni di purgatorio, ci ammazza 500 anni di purgatorio, ah, t'ho sofferto. Sono tutte quante sofferenze sterili. Se ti fai 500 giorni di penitenza qui è un altro discorso. 500 anni di penitenza è un po' difficile nella vita terrena, no? Ecco, però queste cose teniamole ben presenti. Allora, ci siamo quindi lasciati in questo modo. E Riccardo, riprendo la lettura del testo, formula un'ulteriore domanda: qual è la via diritta per ottenere la massima beatitudine? Via diritta per per la massima beatitudine. Allora, è qui. Piccola lezioncina di come si va in alto in paradiso. Risponde Teneramata: compiere sempre i comandamenti e i consigli divini, che non sono capricci del Signore, ma corrispondono invece a ciò che ti è più conveniente sulla terra e nel cielo. I consigli. Nel Vangelo Gesù dà tanti consigli, cioè che cos'è un consiglio? Il consiglio, perché è un'opera di perfezione. Per esempio ci sono i più famosi, sono i consigli evangelici, e di cui fanno professione i religiosi, no? Che siamo obbligati ad essere poveri? No. Siamo obbligati a sottometterci all'obbedienza a qualcuno fuori dei casi in cui siamo, ovviamente, in base alla legge della Chiesa, canonicamente tenuti a farlo, o anche, non solo canonicamente, anche cristianamente tenuti a farlo? No. Siamo obbligati a vivere in castità perfetta? No. Che significa? Significa che se io non sono povero, non pecco. Se io non vivo in castità perfetta, cioè mi sposo, non pecco. E se io non mi sottometto volontariamente in cose non prescritte all'obbedienza di qualcun altro, non pecco. Perché ho la mia libertà, ci faccio quello che mi pare. Entro l'ambito ovviamente dei 10 comandamenti. Quante esortazioni però dà anche Gesù, no? Anche nel Vangelo. Prendete ciò che avete, datelo in elemosina, non angustiatevi per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete, di come vestirete. Quindi sono consigli. Un consiglio è proprio è una pratica di perfezione, no? Da cui poi deriva l'imperfezione. Scusate che. Se io non metto in pratica un consiglio, perdo delle grazie. Perché l'imperfezione, sapete, facciamo ogni tanto un po' di ripasso, un po' di ascetica, no? La grazia in noi non è una realtà stabile, quindi che è data e rimane sempre uguale. No? La grazia cresce, la grazia diminuisce, oppure si perde. Catechismo, no? La grazia si perde col peccato mortale, la grazia diminuisce col peccato veniale, cioè quando disobbedisco a Dio, quindi faccio una disobbedienza su una cosa che è prescritta dalla legge di Dio, ma è materia lieve, oppure se anche fosse in materia grave, senza la piena avvertenza o il deliberato e o il deliberato consenso. Però la grazia può anche aumentare, la grazia aumenta se prego, ma la grazia aumenta se ricevo fruttuosamente i sacramenti. La grazia aumenta ogni opera buona che compio. La grazia non aumenta, anche se non diminuisce, quando io non assecondo un'ispirazione, non metto in pratica un consiglio, non compio un'opera di perfezione. Facciamo un esempio, è appena finita la Quaresima. Cosa è prescritto durante la Quaresima? Lì bisogna farlo sotto pena di peccato. È prescritto che mercoledì delle ceneri c'è digiuno e astinenza. È prescritto che tutti i venerdì di Quaresima c'è astinenza stretta dalle carni. Ed è prescritto che il venerdì santo è digiuno e astinenza. Chi non fa queste cose deve confessare, perché pecca. È chiaro che se uno vuole fare i grandi digiuni in Quaresima, non faccio soltanto mercoledì delle ceneri e il venerdì santo, lo faccio tutti i mercoledì e venerdì di Quaresima. Meglio. Chiudo la televisione. Meglio. Tutto a noi. Più se ne fanno di queste cose, e più in alto si va in paradiso. Questo io da prete sono obbligato a dire queste cose qui, capite? Perché chi mi ascolta un giorno benedirà il giorno in cui mi ha ascoltato, e chi non mi ascolta non potrà dire non lo sapevo, perché un prete ha proprio il compito di aiutare le persone, quindi a formarle, no? Ad avere un pochino di luce. La gloria eterna, riprendo la lettura, è una perfetta fraternità che si deve iniziare qui, mediante la pratica della fraterna carità cristiana. E guardate che ogni volta che parla di carità cristiana, anche adesso, Teneramata farà una glossa, che poi per i tempi attuali è quanto mai opportuna, molto più che per la fine degli anni 70, dove per la verità alcune tendenze che adesso sono diventate ataviche erano già ampiamente non solo in nuce, ma già sbocciate e cominciavano a dare i primi frutti avvelenati, no? Dice, mediante la pratica della fraterna carità cristiana, la quale non si deve confondere con un amore esclusivamente umanistico, filantropico, potremmo anche dire massonico, che si pratica per una compassione o per un interesse puramente terreno. Per esempio, amerai il Signore Dio tuo sopra tutte le cose. È così. È ciò che farai nella tua vita futura. In questo consisterà la tua felicissima gloria essenziale. Vedete? Cioè, allora, la carità cristiana, noi sentiamo parlare di carità cristiana e cominciamo subito a pensare, subito, alle opere buone verso il prossimo, che ne so, alle opere di solidarietà, anche alle opere sociali o cose di questo genere, no? La carità non è anzitutto questo. Il secondo comandamento viene dopo il primo. A catechismo, ecco che bisogna sapere il catechismo, dovremmo aver imparato quali sono i due precetti della carità. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le forze, cioè sopra ogni cosa e con tutto te stesso. E il prossimo tuo come te stesso. Non si può passare subito allo step 2, perché oggi il primo comandamento non lo mette in pratica quasi nessuno. Qualcuno si illude di mettere un pochino in pratica il secondo perché fa qualche opera di volontariato o sociale. Poi bisogna vedere se lo fa per amore di Dio oppure, che ne so, per essere ammirato dagli uomini o per sue convinzioni appunto laiche. Ci sono tantissimi cosiddetti laici impegnatissimi in opere sociali, alcune opere sociali distruttive, ma qualcuno anche opere speciali, sociali buone, no? Se un laico si impegna, che ne so, ad andare a costruire un ospedale in Africa, qualcuno l'ha fatto, ha fatto un'opera buona, un'opera che tranquillamente potremmo fare anche noi, ma lui l'ha fatto da laico e l'ha fatto per il suo senso filantropico di questi poveracci che stanno in condizioni igieniche precarie, c'ho un sacco di soldi, scelgo che una parte li investo per fare quest'opera buona. Il Signore lo ricompenserà, non è che non lo ricompensa. Se non si convertirà e non raggiungerà la salvezza, insegna San Tommaso, lo ricompenserà con benefici temporali, cioè ha speso 500 milioni di euro, può assicurare che gliene farà del doppio. Può darsi. Quindi, ma in paradiso, noi faremo anzitutto questo, perché la gloria essenziale del paradiso è l'amore di Dio. C'è anche la gloria accidentale, ma la gloria essenziale, l'amore di Dio, che comincia qui. Se tu non preghi mai, se non impari a pregare con la P maiuscola, rimando alle catechesi fatte anche non molto tempo fa sulla orazione profonda, sulla preghiera profonda, che è proprio una caratteristica imprescindibile per chi vuole vivere nella divina volontà, perché altrimenti le divine carezze, i divini abbracci, non li godrà mai, non li percepirà mai. Però questo è il primo comandamento, è quello che faremo dall'altra parte. Oh, poi prosegue, non ruberai, perché è stupido rubare ciò che in fin dei conti è nostro nel cielo, no? Che devi rubare? Già lo disse San Paolo, tutte le cose sono vostre, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Non mentirai? Così cominci ad abituarti alla veracità assoluta e gradevolissima in vigore nella patria. Oh, posso spendere una parola sul mentire? Allora, noi figli cari dobbiamo metterci bene in testa che i figli di Dio non mentono mai. Sapete che significa mai? Mai. Fatemi scherzare un po', no? Ecco, ogni tanto posso essere tuo figlio spirituale, Don Leonardo, io dico, rispondo sempre con la battuta di Padre Pio, l'ho già detto altre volte, forse anche in questa serie di catechesi, dico, purché tu non mi faccia vergognare? Ecco, allora, se uno è figlio spirituale di Don Leonardo, impari subito due cose abbastanza abbastanza frequenti in giro, che non si mente mai e non si dicono mai le parolacce, per nessun motivo, mai. Se no, niente figli spirituali, ma questo non è essere figli spirituali di Don Leonardo, questo è essere figli di Dio. Mentire non si mente mai per nessun motivo. Questo non vuol dire sempre a tutti tutta la verità. Non mentire non è dire sempre a tutti tutta la verità, perché non si può dire, se io non posso dire quasi niente delle cose che so. Immaginate, no? Cioè, tutte, moltissime informazioni che un prete sa sono riservate, sono. Non posso parlare con nessuno, soltanto col Santissimo Sacramento. Quindi vi pare che una domanda diretta su quegli argomenti io posso rispondere? No, non posso farlo. Ma a parte il fatto che un prete c'ha la scappatoia, che se gli fanno per esempio una domanda, dice: ma che ti ha detto quello in confessione? Io posso rispondere senza mentire, non lo so, perché realmente non lo so, perché le cose che io so in confessione le so solo dentro il contesto della confessione. Cioè, se qualcuno mi fa una domanda fuori confessione, perfino il diretto interessato, su una cosa che mi ha detto in confessione, io devo mostrare esternamente che quella cosa la ignoro. Quindi, cioè, e qui mi aiuta la struttura, per esempio, del sacramento stesso. Ma capite? C'è sempre un modo per non dire ciò che non si deve, cosa che non si deve fare, ma senza mentire, cioè che quello che dico è vero, sempre, anche se non è tutto. E poi c'è l'altro aspetto fondamentale della veracità, che è la fedeltà alla parola data. Perché Gesù dice nel Vangelo che non giurate proprio, che devi giurare a fare? Un figlio di Dio perché deve giurare? Se io ti dico una cosa, quella cosa è quella. Cioè, dico, hai visto una testimonianza? Hai visto quella cosa è successa? Se io l'ho vista, dico di sì, punto e basta. Non c'è bisogno che giuro. Se io ti prometto una cosa, non c'è bisogno che giuro, perché quella cosa la farò. E se, non la farò soltanto se sopraggiunge un impedimento invincibile, indipendente dalla mia volontà, ma non serve che giuro. E così il turpiloquio non è mai in nessun modo, in nessun caso giustificabile, per nessun motivo. Mai. E questo tanto per... Non desidererai le cose degli altri. Ma perché invidiarla, sincero, non ci sono le cose degli altri. In cielo tutto nostro. Non ti importi se la volontà divina contraddice la tua volontà e il tuo benessere materiale. Vedete il collegamento con la tua volontà. Non protestare né ribellarti contro di essa. Contro la volontà divina non si protesta mai, figlioli miei cari. Mai. Qualunque cosa accada, qualunque cosa Dio permetta, ma, e non so che non si protesta, non si chiede a Dio perché. Dio non è tenuto a dare ragione a nessuno di quello che fa. Siamo noi che dobbiamo rendere ragione di quello che facciamo a Dio, non viceversa. Quindi, non protestare né ribellarti contro di essa. Non fare un così mal negozio per la vita futura. E poi torno su un argomento già trattato. Non perdere inutilmente i preziosi spazi e tempi della tua vita terrena, perché il tempo in peccato mortale è tempo perduto. Qui domande in diretta, mail arrivate, cioè ricordiamo, abbiamo già trattato, ne ha già parlato di questo, no? Tutto il tempo vissuto non in grazia non entra a far parte dell'eternità creata. Non entra. Perché il male è il non essere. E in paradiso il non essere non c'entra. Quindi Non c'entra né in paradiso, ma non c'entra neanche in quel paradiso accidentale, chiamiamolo così, che è l'eternità creata di una persona che raggiunge la salvezza. Se per i mondani il tempo è denaro, per i cristiani, quante prediche ho fatto, pure domenica scorsa, il tempo è felicità futura, cioè occasione di accumulare per il cielo. Per noi il tempo è altro che denaro, è più che è preziosissimo. Una cosa che non ho fatto oggi, santa, che mi era venuta l'ispirazione di farla, dice, la puoi fare domani. Sì, la puoi fare domani, ma se l'avessi fatta anche oggi, l'avrei fatta oggi e domani. Quindi c'è il doppio merito. Se oggi non l'ho fatta e la faccio domani, il merito di domani c'è, ma il merito di oggi non c'è. Non c'è scritto nel libro. Il libro dell'Apocalisse dice che al momento del giudizio vengono aperti due libri, quelli nostri, quindi il libro della nostra vita e il libro della vita, quello che c'è il nostro Signore. Che c'è scritto sul libro della nostra esistenza? In base a quello che c'è scritto riceveremo la nostra ricompensa. Sia nel bene che nel male, come dice San Paolo in una delle sue celebri lettere che io leggo sempre ai funerali. Tutti dobbiamo comparire davanti a Cristo per essere da Lui giudicati e ricevere la ricompensa delle opere compiute fino a quando eravamo nel corpo, sia nel bene che nel male. E per ragioni di stretta giustizia, perché merito e pena sono concetti legati alla giustizia, non alla misericordia. E la misericordia, di cui dobbiamo ringraziare tanto il Signore, non ha nulla la giustizia. L'ideale, guardate, se volete essere un pochino furbi, furbi santamente, o meglio sarebbe, noi dovremmo dire al Signore, guarda, fammele pagare tutte, qui in terra. Io voglio la giustizia, non voglio la misericordia. Capite il senso in cui lo sto dicendo? La misericordia viene dopo. Non fare sconti con me. Ho sbagliato, mandami tutti i castighi che ritieni opportuni. Tutti, nessuno escluso. Io farò il possibile per fare quello che posso per riparare e per espiarli. Fatto questo, arrivi tutta la misericordia possibile e immaginabile. Non il contrario. Questo è atteggiamento sapiente e saggio. La misericordia viene dopo. Non come adesso viene presentata, è sempre è un paravento per tutto e per tutti. È la prima cosa che si dice, viene offerta la misericordia anche a chi non, anche a chi non riconosce il peccato e non vuole e non vuole lasciarlo. La misericordia non funziona, eh? Cioè, la misericordia non viene data a chi non riconosce il peccato come peccato. Dice, vabbè, non lo riconosco come peccato, quindi mi confesso. Sì, ma quando ti confessi devi essere pentito. E se al sacerdote consta da elementi oggettivi che la persona non è pentita, l'assoluzione non la può dare. Non è che dice, ma è cattivo. Sant'Alfonso dice che pecca mortalmente un sacerdote che faccia questo. Perché? Perché illude il penitente di una assoluzione che Dio non dà. Noi siamo ministri dei sacramenti, non padroni dei sacramenti. Dio perdona chi è pentito, io quando alzo il braccio e dico ti assolvo dei tuoi peccati, dico io ti assolvo, non sto è come quando consacro, no? Dico questo è il mio corpo, ma quello non è mica il corpo di Don Leonardo, io non assolvo nessuno dei peccati, in quel momento è Cristo che parla in me, ma Cristo non assolve da nessun peccato se non vede il pentimento. Chi dice sciocchezze su questo punto, si va a rileggere la vita di Padre Pio, che a differenza di un prete normale che può non assolvere soltanto quando costato oggettivamente, no? Cioè, se un prete è una persona va a dire che io non vado mai a messa la domenica, tu gli dici fino a questa domenica, ma dalla prossima c'è intenzione ad andare, non c'è nessuna intenzione ad andare, non può dargli la soluzione se non c'è il proposito di riprendere andare a messa a domenica, non può. Noi, padre, io con la mia fidanzata abbiamo i rapporti prematrimoniali. Fino ad adesso, da domani in poi basta. E come basta? Se non basta, hai ricominciato a fare la comunione il giorno del matrimonio. Se non basta. La scelta deve essere chiara, cioè io vivo fino al matrimonio come Dio vuole. Poi che una persona ti capita un giorno storto, fai un'imprudenza, ti ritrovi da solo in macchina o in casa e ti prende la passione e cadi, questo è un altro discorso, questo. Ma tu non puoi fare la scelta della non castità prematrimoniale e poi pretendere andare a confessare che c'è la soluzione, anche se non convivi. Perché la convivenza rende semplicemente pubblica questa cosa, cioè aggiunge alla fornicazione l'elemento dello scandalo, cioè lo rende pubblico. Per questo che è ancora più grave. I concubini, si chiamano così, sono dei pubblici scandalizzatori, anche se molti non ne sono consapevoli di esserlo. È per questo che non possono fare da padrino, tutte queste cose qui, no? Che rimangono anche se in molti fanno finta che queste cose non esistono più. Facciano pure. Non ci si può prendere gioco di Dio. Ecco, guardate, il titolo dell'Ora Santa di ieri sera. Dio non si ride. Noi non siamo più grandi di Lui, non siamo al di sopra di Lui. Siamo tutti quanti servitori, inutili ma servitori, non arbitri. Non siamo più grandi di lui, né arbitri né tantomeno padri eterni. Ecco. Siamo dei poveri uomini, tutti. Ok, quindi per noi cristiani la vita terrena, il tempo è denaro, certo, è denaro c'è cioè occasione per accumulare il cielo. Per accumulare cielo o accumulare per il cielo. Quanto sono deficienti, scusatemi. Io ho fatto pure una bella predica, ormai famosa, la Domenica delle Palme, sta anche online. Ma dico, ma sei scemo? Ah, io lavoro sempre pure la domenica. Io nel posto dove sto, che è un posto turistico, la domenica è giorno di. Non solo di lavoro, ma di lavoro massacrante per molti. Vuoi continuare così per tutta la vita? E quando sei morto, che fai? E tu per il lavoro la domenica non vai mai a messa la domenica? Gli racconti questo al nostro Signore? Ma devo lavorare. Sicuro? E il nostro Signore rispetta le nostre libere scelte, non le approva quelle che non sono secondo la sua legge. Ma tu non sei soltanto un corpo. Le bare non ce l'hanno le tasche, i soldi non te li porti dietro. C'è gente, dalle mie parti ce n'è tanta, che veramente zero assoluto. Cioè, voi pensate, conoscendo queste cose, c'è gente che c'ha 50 anni e eternità creata, accumulata, che c'era dal battesimo fino all'età della ragione. Dopodiché, zero assoluto, eh? L'occasione di accumulare per il cielo vola e va via. Ogni lasciata è persa? Certo che ogni lasciata è persa, ma non come la intendono i pagani peccatori. Che la applicano alla lussuria. Quindi, se tu c'hai un'occasione per. Non te la fa scappare. Per noi non è così. Se io ho un'occasione di fare un'opera santa, che sommata fammela scappare. Oggi potrei andare a messa, però c'ho sta cosa da fare. Vabbè, per un giorno non ci vado, che succede? Allora, non succede niente, non succede. Cioè, quando uno fa il discorso, ma per un giorno non ci vado, che succede? Non succede, sotto certi punti di vista, niente. Perché non fai un peccato, quindi non è dice, ah, non è un peccato non andare a messa in un giorno feriale. Però sotto altri punti di vista succede. Perché hai una grazia di meno. Perché una messa di meno sono grazie di meno. Chiaro che se una persona un giorno c'è un'impossibilità oggettiva, non è che uno vuole mettere in croce il prossimo. Cioè, io dico queste cose non per affliggere, ma per aiutare. D'accordo? Cioè è una forma mentis che deve scattare, una forma mentis che non fa di noi delle persone ossessionate e fanatiche, no? No, tutto questo viene visto sempre con calma, con naturalezza, diciamo così, con scioltezza. In questi giorni, in diverse circostanze, sono stato chiamato in altre sedi a parlare della modestia del vestire per maschietti, femminucce e preti. È chiaro che qui ci sono dei tassi di perfezione, cioè quando una persona capisce qual è la perfezione voluta da Dio nel vestire, non rimpiange quello che c'era. Fino a quando rimpiange quello che c'era, per esempio, un prete c'è da talare, però volevate farmi un viaggio, perché almeno nel viaggio posso mettermi tranquillamente, perché nel viaggio sto un po' più comodo. Non ha ancora raggiunto la perfezione. Se pensi questo, ancora non è, perché non ti viene neanche in mente quando tu questo, se tu hai raggiunto interiormente una perfezione. Dice, sai, mo, ho imparato a vestirmi in un certo modo, quindi facciamo questo sforzo. Però se mi posso vestire un po' più casual, meno male, stiamo ancora in cammino, stiamo, ecco. Perché occasioni per il cielo volano e vanno via. Cioè, pertanto devi procurare che ti rimanga per sempre nella quinta dimensione il bene autentico, quello che si pratica, attenzione, per amore al nostro Dio. Qui entra in ballo il discorso, per esempio, io questo, c'ho esperienza su questo, della direzione spirituale, che io adesso sto con le antenne addrizzate, perché vi posso dire, tanto non faccio nomi e cognomi, che io sono certo che ho quasi 20 anni di ministero, che diverse persone hanno fatto certe cose nella loro vita interiore non per amore di Dio, ma per amore mio. Per amore mio, che intendiamoci, nel senso che ti riconoscono come autorevole e quindi tu dici una cosa e pum, lo fanno così. Non va bene questo qui. Oppure constatavo che alcune cose le facevano solo in mia presenza. Parliamo di altri contesti parrocchiali. Mi venivano a riferire, guarda Lona, quando tu stai in parrocchia nessuno si presenta in canottiera, ma quando tu vai fuori d'estate, che ci stanno i tuoi sostituti, si vede da tutto. È brava cretina. Non è che tu vai in chiesa vestita decentemente, quindi senza canottiera, perché sennò Don Leonardo ti sgrida. Perché non è che Don Leonardo ti sgrida perché è un esaurito. Don Leonardo ti sgrida perché in chiesa in quel modo lì, se tu entri in quel modo, pecchi mortalmente. E lo devi capire. Perché non è che se vai in un'altra chiesa o se Don Leonardo non c'è, Dio diventa cieco. Dio ti vede sempre. Io questo ti devo insegnare. Quindi, capite, no? Una persona che facesse questo offende anche me perché cioè, mi dà un'importanza che io non posso e non devo avere. Io ti dico quella cosa perché sono un ministro, ma tu quella cosa la fai davanti a Dio, la fai, e la fai per amore suo. Mi vennero a riferire tempo addietro, siccome tra le tante cose che dico, come ti raccomanda alle persone, lo vedremo col prossimo ciclo di catechesi di Gloria Polo, questo è un particolare. Gloria Polo scrive, ve lo dico da prima, che nel giudizio particolare che ha avuto, dice, il cibo non si spreca, figlioli miei cari, un chicco di riso Dio ne chiede conto. Io me lo ricordo quando una persona venne terrorizzata, che aveva letto Gloria Polo, io vado all'inferno. All'inferno, lo stesso che hai fatto. Io buttare un sacco di cibo durante la mia. Dico, vabbè, vabbè, tranquillo. Mo, da oggi in poi lo sai, però tu non puoi, cioè, pranzo, che ne so, compleanno di Don Leonardo, oppure che ne so, un evento ecclesiale, un pranzo comunitario. Oh, guarda, se ti siete vicino a Don Arnaldo, mi raccomando, mangia tutto, perché se no lui ti rimprovera perché non ti lascia il cibo nel piatto. Ah, è questo, Tu fai questo perché se no Don Leonardo ti rimprovera. Io se fossi in te farei questo, se no vedi il purgatorio che te farai. E te lo fai doppio se tu non fai questa cosa per Don Leonardo e non per amore di Dio. Doppio te lo fai. Il bene autentico, quello che si pratica per amore al nostro Dio, solo quello Dio riconosce e accetta. Il più che tu possa compiere in questa successione di spazi, tempi fuggitivi, il più, il massimo. Vi ripeto, adesso abbiamo la possibilità di andare al massimo. Andare al massimo non come cantava uno sciagurato cantautore. Andare al massimo verso il cielo, come andare al massimo la Madonna, io dico sempre, la Madonna in campo spirituale sta alla guida. Qual è l'ultima Ferrari che costerà 5, 1 milione di euro? Non lo so, che va come, che chi lo sa che c'ha sotto. La Madonna stava sempre a tavoletta sulla più bella Ferrari che esiste. Questa, la vita della Madonna era quella, stava sempre in cima. In ogni istante lei stava sempre agendo per la massima gloria di Dio, non per la maggior gloria di Dio, la massima. Ecco perché è la piena di grazia. Ecco perché, cioè, dietro la Madonna non ci può stare proprio nessuno. Adesso non dico, non ce la facciamo arrivare a tanta perfezione, però dobbiamo sapere, ricordare il più che tu possa compiere in questa successione di spazi e tempi fuggitivi, in tutti i modi possibili. C'hai soldi? Fai tante elemosine se vuoi un consiglio spassionato. C'hai tempo? Fai tante opere buone, prega, mettiti a servizio del prossimo, fa quello che ti pare, non lo sprecare. Proseguo sempre la lettura. Hai intravisto la maestosità della quinta dimensione e hai appreso l'immenso valore di ciascun atto della tua vita. Conservato eternamente e con tutta fedeltà nel suo corrispondente spazio-tempo. E già sai che ti è possibile annientare i tuoi peccati per mezzo del sacramento della riconciliazione. Attenzione a questo termine, annientare i peccati. Allora, chi non si confessa è uno sciocco. Perché per annientare i peccati c'è solo un sistema, la confessione, che la fai dal confessore. E attenzione, quando la confessione non è fatta bene, quindi che i peccati non li chiamo tutti per nome e cognome, quelli mortali chiaramente, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, residenza, indirizzo, piano interno, scala, cellulare, mail e sito web. Tutto, cioè, dei peccati mortali, bisogna dirli tutti, ebbene. E quando si fanno le confessioni, prepararle bene, specialmente su certi argomenti, chi può capire capisca. Perché Padre Pio e Don Attilio Negrisolo hanno lasciato detto ai sacerdoti: chiedete di tutto su questa materia, ma è molto difficile farlo, perché si tratta di roba scabrosa. Quindi è bene che il penitente, se ha qualche cosa che gli rimorde la coscienza su queste materie, si arma di desiderio di umiliazione e di vergogna, e lo dice lui quello che ha fatto. Chiamandolo per nome, cognome, ripeto, da luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono, interno, scala, mail e sito web. Altrimenti quei peccati non sono distrutti, rimangono. Dirò probabilmente da domenica, cioè, se tu c'hai un tumore, di quelli che si operano, tu ti devi operare e lo devi togliere il tumore. Se no, quello produrrà metastasi e tu starai male. Se tu in confessione non porti i peccati tutti e bene, tu stai male. La gente sta male per un solo motivo, ma guardate che il peccato è l'origine di tutti i mali. Anzitutto quelli psichici e spirituali. Il malessere. La depressione, le ossessioni, ce ne stanno quante ne volete in giro. Ma anche le disgrazie, le malattie, provengono tutte dal peccato, tutte, nessuna esclusa. Se tu ti lasci quelle cancrene, e attenzione, se tu i peccati non li porti in confessione, tu la fabbrica del male ce l'hai dentro di te tutto il giorno. Capito? È come se dentro ci avessi delle piaghe fetide e produttrici di pus che stanno continuamente attossicandoti. La gente non si rende minimamente conto di queste cose qui. Poi però mi va tutto storto, non sto mai tranquillo, disgrazie, cose. Io cioè, sono il repertorio, insomma, di veramente quando sento certe storie, sono allucinanti. Ma le storie più allucinanti le sento, sarà una coincidenza, da persone che hanno completamente dimenticato la vita della grazia, che esiste un Dio, che ci stanno i sacramenti, che stanno lontani e si autocondannano ad una vita, scusatemi, proprio da schifo. Veramente che poi il diavolo ci soffia sopra e dice sparate, ammazzate, che razza di vita è? Sacramento della riconciliazione, quindi vedete che tutta la lezione che ha fatto Teneramata non serve a nient'altro che a provocare una vita cristiana, perché tutte quante quelle cose belle tu te le scordi se non vivi in grazia e ne godrai in maniera limitata se non raggiungi un elevato grado di gloria. Prosegue. Dice sempre lei, infine. È molto conveniente perché tu goda e faccia godere altri di una maggior gloria accidentale nell'aldilà, che accumuli nella quinta dimensione molti atti di fede e di amore e di carità. Come ben sappiamo, questo non sarà soltanto godimento maggiore per noi, ma sarà godimento maggiore pure per gli altri. E godimento maggiore per gli altri vuol dire che ci ameranno di più anche gli altri, come siamo dall'altra parte. Quindi godremo anche di più dell'amore accidentale degli altri che ci ameranno di più, perché grazie a quello che abbiamo fatto li facciamo godere di più. Essi ti serviranno nel cielo come appoggi, dice, per sostenere l'immenso e dolce peso dell'amore divino verso di te. Atti di fede. Che la fede è una virtù teologale importantissima, la grande fede, la fede divina e cattolica. Quante volte, cioè, le verità di fede noi dobbiamo conoscerle a menadito, non avere nessunissimo dubbio su nemmeno una virgola delle verità di fede, virgola, quindi la Trinità, la divinità di Gesù Cristo, la costituzione divina della Chiesa. Il fatto che la Chiesa è una santa cattolica apostolica, chi è l'uomo, cos'è il peccato originale, che cos'è la morte, cosa ci aspetta dopo la morte, l'esistenza degli angeli ribelli, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, i dogmi mariani, la virginità della Madonna. Tutto questo qui, cioè, cioè, il fatto che Dio premi buoni e castiga i cattivi, il fatto che ci scorreggiamo detto questa sera, ogni opera buona che faccio aumenta la grazia. Ogni perfezione la fa aumentare, il peccato veniale la raffredda, il peccato mortale la fa perdere, i peccati si distruggono soltanto con la confessione, i sacramenti, cioè su queste cose qui dobbiamo essere assolutamente ferrei, forgiati. Poi c'è anche quella fede esistenziale, quindi quel vivere di fede, il Justus ex fide vivit, scrive San Paolo, vivere di fede. sempre con una grandissima fiducia, sempre con un grandissimo, quella fede che poi porta all'abbandono, no? Quella fede che non porta mai a disperare anche dinanzi alle situazioni più gravi, no? Quella fede che porta ad essere fedeli sempre alla verità e a non sottomettersi a nessuno che vada contro la verità. Quella fede che ti fa sfidare il mondo intero, che se tu capisci che una cosa Dio la vuole o non la vuole. Io quella cosa, se Dio la vuole la faccio, se Dio non vuole non la faccio. Posso volere tutto l'altro mondo contro, non me ne importa niente. Provate a vivere così, poi è stupendo vivere così, è bellissimo e procurerà una grandissima gloria. Prosegue tenera amata. La certezza morale della quinta dimensione nel ricordare la sopravvivenza del tuo essere integrale e delle tue buone azioni. Immagina una buona azione che rimane per sempre. Ci potrai tornare, la potranno vedere anche gli altri. Adesso molto, molte buone azioni, bisogna fare il segreto tra noi e Dio. Ma dopo? E quanta gloria ti verrà da tante buone azioni che tu hai fatto in segreto, che magari nessuno si immagina? Le preghiere, per esempio, che uno ha fatto per i propri nemici. Sai la faccia che faranno quando quelli dicono: ma guarda, io sono stato così una carogna con questo, con questa, con tutto quello che gli ho fatto, che stava pregando per me tutti i giorni. Insomma, no? La certezza morale della quinta dimensione nel ricordare la sopravvivenza del tuo essere integrale e delle tue buone azioni alimenterà in te la speranza, perché quelle opere virtuose, dice Tenera Amata, che tu hai lasciato custodite come pegni di felicità futura nel magazzino del tempo passato, diventeranno per te, per i beati con i quali sarai in rapporto di amore, meravigliosi tesori di gloria accidentale nella beatitudine. Capito? Cioè tu fai un digiuno adesso che ti costa, perché soffrirai, ma ogni minima cosa di questo genere ti torna, non soltanto in gloria futura, quindi in meriti, ma nella gloria accidentale, quindi in quello spazio-tempo, in quel giorno in cui hai fatto quel digiuno, quando ci torni, quel digiuno si trasforma in cosa? Ah, in tanta roba. Tesori accidentali. Tesoro di gloria accidentale nella beatitudine. Devi convincerti che il gran peccato dell'umanità, cominciamocene tutti, consiste nel disprezzo e nella dimenticanza del nostro Dio. Ecco, la gente a cui sono stato mandato, la fotografia, il disprezzo e la dimenticanza, non ci pensano proprio. La dimenticanza, si sono dimenticati che Dio esiste, che c'è un Dio. Ho proprio il disprezzo, non, a Roma dicono un'espressione che non si può tanto ripetere perché il termine in realtà è un'allusione ad un fatto volgare, quindi la posso dire soltanto come dire, civilizzandola. A Roma dicono: non gliene puoi importare di meno, non è proprio questo il termine, ma quell'altro termine non sta bene né sulla bocca di un sacerdote neanche sulla bocca di una persona comune, anche se molti non sanno che significa, però è una volgarità. Ecco, quindi è meglio non dirlo. È così però. Questo è il grande peccato, il disprezzo e la dimenticanza del nostro Dio. E nel metterlo in disparte, nei vari amori, ideali, progetti e attività. Via, in disparte. Nei vari amori, cioè, c'è gente che non sa neanche che cos'è l'amore di Dio. Quando noi siamo stati creati, anzitutto il primo comandamento, quando Gesù dicono: qual è il comandamento più grande della legge? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Noi siamo stati creati per questo. E c'è gente che non sa neanche dove sta di casa questo. Metterlo in disparte nei vari amori. Ideali. Ideali. Le cose che, le grandi scelte che muovono la tua esistenza. Una persona c'è grande. Se a te ti chiedono, ma tu che campi a fare? Che gli rispondi? Una persona che c'è grande, che campo a fare? Io campo per diventare santo, lo so che sto lontano anni luce, però ci provo. Se non desidererei nient'altro che questo. Grandi progetti. Qual è il grande progetto? Fare esattamente tutto quello che ti ha pensato per me, alla lettera, fin nei minimi dettagli. Attività? Tutto sempre e solo sotto gli occhi di Dio, per la sua gloria, per piacere a Lui, sempre, dovunque e comunque. Fine. Questa è la vita di un cristiano. Ma così non è. Per molti, per troppi. I problemi tuoi e della società non si risolveranno né con il capitalismo, né con la democrazia, né col comunismo, né con l'umanesimo, per quanto sia cristianoide. Di questo umanesimo cristianoide oggi siamo completamente, guardate, circondati. E l'umanesimo cristianoide oggi è propugnato da chi dovrebbe predicare il cristianesimo agli umani, troppo umani che girano. Senza l'aiuto del nostro Dio niente di buono si può fare. Cita il Vangelo, no? Senza di me non potete fare nulla, sottinteso, dice San Tommaso, di buono. Non bastano le sagge legislazioni o le normative precise, a poco valgono le promesse demagogiche, le suggestioni collettive, non ci salvano i politici. Il perfido egoismo porta tutto al fallimento, individui, famiglie, condomini, sindacati, scuole, comuni, stati, nazioni e il mondo in genere. Orbene, l'antidoto dell'egoismo non è l'elemosina esclusivamente materiale e neppure il distribuire beni spirituali per un motivo semplicemente umanitario. Faccio una scuola perché l'istruzione è un bene oggettivo. No. Questo non è l'antidoto dell'egoismo, secondo Terenamata, ma secondo il Vangelo, non secondo Terenamata. Comunque, qui Terenamata si fa eco del Vangelo. Osserva quanto avviene nella nostra patria celeste. Scusate, osserva quanto avviene nella nostra patria terrena. Lui sta dicendo, adesso sta parlando del Messico, no? Egoismo, ambizione, superbia, apatia, corruzione, vanità di ricchi e di poveri, perché pure i poveri sono vanitosi, eh? Sta affogando la società in una terribile crisi di impoverimento, di inflazione, di svalutazione del denaro, mancanza di lavoro, angoscia, pericolo di guerra. L'antitossina dell'egoismo è compiere la legge del Signore per amore a Lui. Voi pensate questi stati che si sciacquano la bocca, lo Stato di diritto, lo Stato laico, lo Stato degno di questo nome, quello in cui Cristo regna. La legalità sociale di Cristo. Compito dello Stato, immaginate se qualcuno sente queste cose qui, mi metteranno in croce prima del tempo, è promuovere l'osservanza della legge di Cristo. Non fare leggi che sono contrarie alla legge di Cristo perché, ma lo Stato è laico. Quindi se tu c'hai questa convinzione di fede, te la tieni per te, ma io non ci credo e quelli che non ci credono possono fare anche altro. Siamo sicuri che funziona così? Vai, dopo. Guarda che bello che è il mondo che stanno costruendo. Diamoci un'occhiata in giro. Il mondo senza Dio, la famosa diffusione degli errori del comunismo di cui parlava la Madonna Fatima, non è che il comunismo regna in tutto il mondo, ma è che ciò che il comunismo ha insegnato come suo valore fondante, cioè costruisci la terra senza Dio, perché l'uomo è infelice perché c'è chi ha i soldi e chi non ce li ha. Allora, devono averci tutti quanti gli stessi beni, non ci devono essere disuguaglianze, e così avremo realizzato il paradiso sulla terra. Addio, lascialo perdere, che per queste cose non serve. In due parole questo dice il comunismo. Ma questo adesso viene fatto dappertutto, adesso non c'è più come dire, l'uguaglianza sociale. Adesso c'è, dobbiamo garantire a tutti di fare il porco comodo loro, perdonatemi, ma qui ci vuole questa espressione, d'accordo? Strainfischiandosi di tutto, cioè che ne so, di pubblica decenza, di pubblica cosa, d'accordo? Salvo che non vengano commessi omicidi, poi però, come dire, i feti e gli anziani in fin di vita. Non sono omicidi quelli, quelli si possono fare. Questo stanno costruendo. L'antitossina dell'egoismo è compiere la legge del Signore e farlo per amore a Lui, non per compiacere qualche oracolo, anche se fosse un suo ministro, e per trovare le sue grazie, diciamo così. È necessario, è urgente dunque, fare appello con fede all'Altissimo, con amore di carità, con il compimento fedele dei suoi comandamenti, con la speranza messa nel ricchissimo cielo che hai appena intravisto, con la mortificazione volontaria. Mi trovate qualche vescovo, qualche prete che fa qualche bella predica su questa, almeno in Quaresima, mortificazione volontaria. Mortificazione volontaria, cioè tu scegli di darti la morte, tra virgolette, mo, mo, mo, mo, morte in facere in latino, faccio la morte a cosa? Ai sensi e alle passioni. Si sente spesso dire in giro, io spero che le sento solo, non senta nessuno, no, non dobbiamo fare nessuna mortificazione, ma che siamo matti? Ma che stai fuori di testa? Ma ha già sofferto tanto nostro Signore, che devi soffri pure tu. E pace che lo dicano i laici. Ma pare che a volte lo dica anche qualcuno che sarebbe meglio che, se proprio deve dire ste stupidaggini, sarebbe meglio che se stesse zitto, che fa meno guai. La mortificazione volontaria come prova di volere lui solo. A me non me ne importa niente di nessuno, io posso non mangiare. Posso soffrire nel corpo, chiudo la televisione, chiudo lo stereo. Vuoi che faccio questo? Io butto tutto domani. Non me ne importa niente. Se sono cose che nell'ambito del lecito tu mi concedi e che io so moderare, le vivo come tu e ti amo. Ma se devo fare il lockdown totale, dall'oggi al domani, lo faccio seduta stante. Non c'è niente di queste cose che mi domina. Ecco la mortificazione volontaria, come prova di volere lui solo. E infine, con la preghiera fiduciosa e perseverante. Ecco qui il programma di santificazione. Questa è l'antitossina dell'egoismo. Ripeto, così concludiamo questa puntata che tempo sta per scadere. Antitossina dell'egoismo è compiere la legge del Signore per amore a Lui. Fede nell'Altissimo. Amore di carità, compimento fedele dei suoi comandamenti, speranza, cioè la speranza vuol dire che abbiamo trasferito la nostra vita, i nostri sogni nel cielo che attendiamo e che è appena intravisto. Mortificazione volontaria e preghiera fiduciosa e perseverante. Con il dovuto rispetto, la Madonna sono 200 anni abbondanti che sta dicendo queste cose in tutte le lingue del mondo, perché è apparsa in diversi paesi e in tutte le salse. C'era una detta anche teneramata, ecco, ad abundantiam. Ecco, speriamo che qualcuno, dinanzi a tanta grazia, a tanta copiosità di fonti, abbia il senno, l'intelligenza di metterle in pratica. Ci vediamo, credo, per l'ultima puntata, perché mancano ormai 3 paginette di congedo, la prossima volta. Che Dio vi benedica e che la Santa Vergine sempre vi protegga. Carissimi amici e amiche, bentornati. a una nuova puntata del ciclo di catechesi su Tenera Amata, che certamente anche questa sera ci porterà parecchio in alto, ecco, col cuore e nelle vette del cielo e di ciò che ci attende dopo questa sosta in questa valle di lacrime, in questi viatori, ecco, nella quarta dimensione. Ecco, sicuramente faremo un altro giro. Nella quinta dimensione ascolteremo tutta una serie di altre edificanti realtà. Ricordo che la volta scorsa abbiamo concluso sempre vedendo alcune spiegazioni di Tenera Amata sulla quinta dimensione, spiegando come perdurano gli atti virtuosi, ma i peccati perdonati e di cui ci si è pentiti vengono annientati. Che il male morale, abbiamo visto che è la sola cosa annientabile dalla creazione, e che nella quinta dimensione tutto perdura tranne i peccati perdonati dal Signore. E abbiamo concluso con la bellissima frase di Tera Ramata che dice che il cristianesimo è la religione della gioia. Peraltro, forse avrò dimenticato di dire anche questo, una felice coincidenza, perché la precedente catechesi è stata venerdì scorso, perché era la vigilia dei primi vespri della Domenica della Gioia. Quindi abbiamo già avuto un'introduzione nella bellissima Domenica Gaudete, che allieta particolarmente il tempo di Avvento. Non vorrei dilungarmi troppo, ma continuiamo subito la lettura riprendendo da dove ci siamo fermati, no? Quindi Tera Amata che afferma che il cristianesimo è la religione della gioia, al che evidentemente Riccardo fa una domanda appunto pertinente. Dice: il cristianesimo è la religione della gioia. E Riccardo dice: e perché Dio permette che soffriamo? A causa del peccato del mondo, risponde Tera Amata, che include le tue proprie mancanze morali. Perché sebbene siamo stati redenti da nostro Signore Gesù Cristo, ogni uomo deve coprire la sua quota di dolore nel mistero della redenzione. Qui mi fermo subito, perché il dolore nacque con il peccato dell'uomo, perché il male prodotto dal peccato, che è come una fabbrica di male, un generatore di male, può essere distrutto solo con la croce, cioè con il dolore offerto per amore. Non ci sono altri sistemi. Se ci sono altri sistemi, ha scritto anche qualche santo padre della Chiesa, il Signore lo avrebbe mostrato con i detti o con la parola, ma come ci ha redenti il nostro Signore? Quindi la croce, che è l'albero della salvezza, per carità, è il nostro simbolo per antonomasia, ma non è voluta dal Signore in modo assoluto. Dio non ci ha creato per soffrire, ma in modo relativo. Ora, essendo entrato il peccato nel mondo, la croce è indispensabile, quindi Dio la vuole come? E noi non possiamo crogiolarci sul fatto che ci ha redenti il nostro Signore Gesù Cristo per pensare di poterne fare a meno, come qui sta dicendo. Abbiamo da coprire la nostra quota di dolore. E come si copre? Prosegue la lettura. Di conseguenza è più logico e più consolante che accetti i fallimenti, gli errori, le tribolazioni come eventi transitori di prova per meritare il cielo e come procedimenti didattici della divina provvidenza affinché rettifichi la tua condotta, o come stimoli alla speranza cristiana di raggiungere l'affascinante gloria della patria, dove non si conoscono le frustrazioni né alcunché di negativo. Quindi vedete che bella catechesi. Non soltanto Tenera Amata afferma la necessità della croce, ma anche il senso. Perché i fini, meglio ancora, della sofferenza. Il primo è eventi transitori di prova per meritare il cielo. Il secondo è procedimenti didattici della Divina Provvidenza per rettificare la condotta, la lettera agli ebrei, no? È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli, quale padre non corregge il figlio? Ed infine come stimolo alla speranza di raggiungere la fascinante gloria. Le sofferenze della vita presente, scrive San Paolo, non sono paragonabili alla gloria che dovrà essere rivelata in noi. E per quanto riguarda il primo aspetto, figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, preparati alla prova. Molte sono le prove che attendono il giusto, quel bellissimo Salmo, il 33, ma lo libera da tutto il Signore. Ecco, quindi. Il cristianesimo è religione della gioia, sì, ma gioia non significa assenza di dolore. Perché piacere significa assenza di dolore, ma gioia non è piacere. L'ho spiegato nelle omelie di domenica scorsa, quindi chi volesse approfondire, cos'era? 10 e 11 dicembre del 2022, può andare a vedere sul mio canale YouTube o altrove, nelle piattaforme dei podcast, l'approfondimento di questo aspetto, no? Ora, nell'accettare la quinta dimensione, proseguo la lettura, è necessario che tu modifichi l'immagine che ti sei fatta delle cose. La vera forma degli esseri durante la loro esistenza come tali non coincide con quello che attualmente percepisci di essi. Perché la tua coscienza si trova legata strettamente all'istante attuale. Guardate quante volte ricorre questa espressione, no? Proprio a ricordarci la nostra bella galera a cui siamo legati con la catena, no? Il remo dell'istante attuale. Nei corpi osservi soltanto ciò che ad essi avviene nel momento presente. È lì che contempli i loro cambiamenti, che essendo successivi, ti vedi costretto a studiare mediante artifici per aiutare la memoria, fotografie, descrizioni, schemi, grafici, computi. Ma non ti è possibile guardare lo stesso essere nello spazio-tempo che è appena trascorso, e ancora di meno in quello che gli accadde un giorno fa o un anno fa. Ciò nonostante, attenzione, ricorda che ogni essere reale è la somma degli spazi-tempi corrispondenti a tutti i suoi atti di esistenza. Tutti. Obiettivo di Riccardo. Ma se così fosse, gli esseri si mescolerebbero nell'ambito dell'eternità creata. Perché nel trasformarsi una cosa, la sua materia si impiega in un'altra cosa, e in questo modo la medesima materia servirebbe per molti corpi diversi. Dice Riccardo. Risponde tenera amata. Ed è così, infatti, ma senza nessun inconveniente. Per esempio, il legno di un albero si trasforma in un tavolo e dopo in legna da ardere. Ma l'essere dell'albero e quello del tavolo e quello della legna da ardere non sono simultanei. Corrispondono a spazi-tempi differenti. L'essere dell'albero fu anteriore a quello del tavolo e questo ha preceduto quello della legna. Capirai che nessun essere creato è assolutamente semplice. E qui c'è proprio la differenza, proprio lo scarto ontologico infinito tra l'ente creato, che non è mai assolutamente semplice, e invece Dio, che è l'increato, leggete San Tommaso, la prima caratteristica di Dio è l'assoluta semplicità, per cui l'assenza di ogni tipo di composizione ontologica o metafisica. Vabbè, questi sono un pochino complicati, però si prendono per buoni. In ogni creatura materiale si trovano diversi livelli o gradi di esistenza. In questo modo, nell'uomo c'è innanzitutto il grado di esistenza come persona che è più alto, no? Cioè costituita di organismo totale ed anima spirituale. Ma c'è anche un altro grado di esistenza, no? Per esempio, un livello di esistenza è quello cellulare, vale a dire l'insieme di cellule viventi in un certo momento. Vi ricordate in quante volte durante il corso della vita cambiamo completamente cellule? Chi ha seguito se lo ricorda, io adesso pausa di suspense, poi lo dico. Circa 6-7 volte, perché si cambiano completamente ogni tot di anni, proprio completamente, eh? Arrivati a 50 anni 6-7 volte, perché si cambiano completamente ogni circa 7 anni. Queste cellule, sebbene dipendono dall'uomo intero, però hanno una certa indipendenza nella vita particolare loro e possiedono proprietà diverse da quelle dell'organismo integrale. Poi c'è un livello di esistenza chimico dello stesso essere umano in un preciso spazio-tempo della sua vita. E c'è anche un livello energetico di detta persona, corrispondente ad ogni istante del suo pellegrinaggio. Perché la nostra composizione chimica, che è distinta da quella cellulare, dipende da tutta quanta una serie di fattori. Faccio un esempio proprio sciocco, no? La composizione chimica mia attuale dipende anche da quello che ho mangiato stasera a cena, se avessi mangiato, non lo sappiamo, se... d'accordo? Oppure, se una persona si beve un po' di alcol, è chiaro che dentro di sé ci avrà anche, a livello chimico, le molecole dell'alcol, a seguito poi bisogna vedere se è la Sambuca o se è il whisky o se è il cognac, d'accordo? Non è tanto difficile capire queste cose qui, no? Se mi è venuta la febbre, ho preso un virus di questi tempi, non si può dire, ho preso un virus, dentro di me, se vanno a fare l'analisi chimica complessiva, ci sarà anche la struttura molecolare, insomma, un po' meno atomica di quel virus. Giusto? E poi a livello energetico, cioè le fasi metaboliche, quindi quanta energia ho assunto oggi, quanta energia sto consumando oggi, no? Quindi sapete che da questa proporzione poi dipende se dimagriamo, ingrassiamo, rimaniamo uguali, eccetera, no? Sono tutti quanti stadi e livelli di esistenza che scorrono all'interno della stessa persona, ma che sono certamente distinguibili e in parte anche autonomi e non dipendenti l'uno dall'altro. È chiaro che il livello sovrano, principale, dell'essere umano è l'essere persona. Quindi, attenzione, ripeto, è un organismo totale ed anima spirituale, uniti tra loro. Ribatte Riccardo, ciò significa che gli esseri si mischiano nella quinta dimensione? Dice, si frammischiano ma non si confondono. Soltanto tra di loro hanno molteplici rapporti di grandissima allegria, poiché tutti noi esseri siamo vincolati da legami dell'amore universale. Non c'è confusione tra noi a causa della persistenza del nostro essere nella quinta dimensione. E spiega. Ti ho già detto che ogni atto di esistenza, ogni fenomeno perdura nel suo spazio-tempo istantaneo ed esclusivo. Non vorrei rifare l'esempio della volta scorsa, no? Ora sono le 21 e 49 del 20, 18, 16 dicembre 2022. Quello che io sto facendo adesso, quindi parlare di tenera amata, perdura nello spazio-tempo in cui lo sto compiendo. Non sto facendo adesso quello che facevo 2 ore fa, non sto facendo adesso quello che farò tra un'ora. Ok? Di conseguenza, non immaginare l'organismo integrale dell'uomo come un immenso esercito di corpi che convivono tra di loro nel medesimo tempo. No! Perché gli atti di esistenza non sono simultanei. Accadono in spazi e tempi differenti, e sebbene tutti gli stati corporali perdurano viventi come in un'interminabile fila indiana, persistono spazialmente e cronologicamente ordinati, senza possibilità di comunicazione diretta fra di loro durante la vita mortale, giacché la coscienza umana è legata al momento presente. Dopo ti dirò come si relazionano tra loro gli spazi e i tempi dell'uomo glorificato. Quindi, aspettiamo. Per ora ci basti capire questo fatto qui, no? Quindi, gli spazi e i tempi con i relativi atti di esistenza non sono simultanei. Quindi non possono andare in questa vita a interferire l'uno con l'altro. Com'è allora la vera forma delle cose? Chiede Riccardo. La forma di qualunque oggetto differisce e vale molto di più della forma osservata nel momento presente. È molto più estesa nello spazio. Per intuire il vero aspetto di una cosa, nella tua mente dovresti stare aggiungendo la successione di immagini ad una degli innumerevoli spazi e tempi corrispondenti agli atti di esistenza, i quali si vanno aggiungendo cronologicamente, segnando con tutta esattezza nell'eterna realtà oggettiva lo sviluppo storico evolutivo di tale corpo. Ti devi convincere che l'essere che guardi e il suo divenire completo, che non puoi osservare, formano un tutt'uno inscindibile, reale e persistente. Riccardo obietta, probabilmente facendosi interprete di molti di quelli che stanno ascoltando. È difficile immaginare una cosa in queste condizioni. Etera amata replica, fa uno sforzo. Ad esempio, per immaginare la Terra nella quinta dimensione, anziché rappresentartela come un gigantesco globo, cerca di raffigurartela come una grandiosa cometa, nella cui interminabile e maestosa coda si trovano reali, viventi ed immutabili tutti gli esseri che l'hanno costituita e tutta la sua storia. La forma di una palla è sferica nell'istante attuale, ma nella quinta dimensione è sommamente allungata, poiché corrisponde alla traiettoria di tutti i suoi movimenti. La linea spirale è la prediletta dell'universo. E bada che le immagini anteriori corrispondono alla cosmologia attuale. Non dimenticare che il mondo oggettivo del reale, secondo quanto affermano le moderne teorie relativistiche, non accade, non succede, non si annichila, semplicemente esiste. Gli esseri si trasformano nel momento presente, ma sussistono incolumi nel passato. Attenzione adesso, mai potrebbe scontrarsi il pianeta contro se stesso, mi disse nel leggere l'obiezione della mia coscienza, nonostante le esatte periodicità con cui percorre la sua orbita. La recente teoria dell'universo in espansione, queste sono tutte quante teorie scientifiche che sono andate sviluppandosi nel XX secolo, sostiene che sebbene le orbite dei pianeti si aggiustano con esattezza al calendario, nessun astro ritorna a situarsi nello stesso posto, sebbene tutti conservano la loro distanza relativa. Per il caso che ci interessa, risulterebbe lo stesso con l'altra teoria dell'universo in ritrazione. Vuoi dire che quando metto una matita nello stesso posto che prima ero occupato da una penna sono in errore? Certamente, perché è trascorso un istante. Lo spazio-tempo della matita è posteriore a quello della penna, ma ognuno perdura senza fine nel suo corrispondente atto di esistenza. Ogni essere reale perdura per sempre, sincrono con tutti gli altri al ritmo dell'orologio, negli innumerevoli spazi-tempi propri, con tutto il suo divenire e senza pericolo di collisione con se stesso né con gli altri. Le collisioni avvengono soltanto nel momento attuale. Obietta Riccardo, forse l'espansione dell'universo si deve alla quinta dimensione. Sì, entrambe sono conseguenze dell'esatta armonia del cosmo. Per il momento hai bisogno di modificare le categorie mentali convenzionali, soggettive e molto radicate che ti hanno suggestionato finora. È necessario per fomentare il legittimo ottimismo nella tua persona e quello che ti circonda, cancellare la falsa e angosciosa idea dell'annientamento del passato. Ti conviene invece per suscitare la speranza nella promessa divina dell'aldilà e perché tu viva in pace in questo mondo, che apra lo spirito alla nozione dell'eternità creata o, bellissimo questo termine, magazzino perpetuo del tempo trascorso. E Riccardo ancora obietta. È difficile rinunciare a quello che si osserva, che gli esseri finiscono definitivamente. Esempio, ogni tanto faccio qualche esempio. Ci muore il nostro amato animale domestico. È morto. Tu mi parli di perdono. È morto, questo non ci sta più. D'accordo? Viene tagliato l'albero della mia casa natale che mi era tanto caro, c'era l'altalena e ci giocavo sempre sotto. L'albero non c'è più. Questa è la nostra percezione. Allora, tenera amata risponde: considera che se qualunque essere si annichilisse, oppure nel divenire temporale perdesse la sua forma anteriore nel trasformarsi, attenzione, nella mente di Dio resterebbe soltanto come un ricordo del passato. Qui, attenzione, qui ci sono delle finezze veramente straordinarie. Non ti pare che sarebbe il colmo attribuire al nostro Dio semplicissimo le circumvoluzioni cerebrali della memoria? Ti L'eternità creata è del tutto conveniente alla divina eternità assoluta. Qui Don Pablo fa opportunamente inserisce una nota, no? L'onnipotenza del Creatore non saprebbe forse conservare nell'esistenza ogni cosa o atto esistenziale da lui creata, ma lascerebbe che tutte le sue opere affondassero inesorabilmente nell'urla al ritmo del tic-tac dell'orologio, cioè che man mano che scorre l'orologio, tutto ciò che viene prima cade nel nulla? Per favore, no? Ho sentito che Dio ci renderà partecipi della sua eternità assoluta nel cielo, dice Riccardo. Appunto. L'eternità creata è la partecipazione analogica della divina eternità assoluta. Perciò la quinta dimensione non è che comincia nel cielo, è già con voi sulla terra. Quindi ogni istante del tempo ha un valore di eternità. Ricordate la frase del generale Massimo al film Il Gladiatore, no? Fratelli! Ciò che facciamo nel tempo riecheggia nell'eternità. Grande frase, effetto, quel piccolo capolavoro, grande capolavoro, insomma, di questo bellissimo film, no? È vero. Ogni istante che noi facciamo non soltanto riecheggia nell'eternità, ma crea l'eternità creata, diciamo così, fonda, la costituisce, la forma. Proseguo, eh. E ancora un'altra prova dell'esistenza dell'eternità creata, un'altra. Non trovi strano che delle opere buone del tuo passato resti soltanto il loro merito innanzi all'Altissimo e il ricordo nebuloso per te? Non credi che una cosa simile sarebbe il colmo del pessimismo? Mentre invece la certezza morale, non l'evidenza assoluta, perché non si può avere, della durata senza fine del tuo essere completo e dell'essere delle persone e delle cose, ti dà forza e speranza e mostra più congruentemente l'onnipotenza divina con ciò che accade nel tuo cammino deviatore. Non ti pare strano, per esempio, che le scene dei grandi misteri della cristiani non esistano più attualmente? Se invece accetti l'eternità creata, la storia della salvezza perdura vivente senza fine. Ed è così. Già qualcuno mi scrive, no, ma che quando saremo morti possiamo vedere la vita di nostro Signore Gesù Cristo? Ovvio, certo che sì. Possiamo vedere l'Esodo? Certo che sì. Possiamo vedere la consegna dei 10 comandamenti a Mosè sul Sinai? Ma certo che sì. Perché? Perché la storia della salvezza perdura vivente senza fine. Noi, per noi, è passato, per noi. E in questa dimensione viatrice, che sia passato è un fatto reale. Ma l'essere passato non vuol dire essere annientato e cadere nell'oblio, quindi aver perso l'essere e rimanere sussistente soltanto come ricordo. Non è così. Peccato che ancora non ti sia possibile, dice Tenera Amata, contemplare la grotta di Betlemme, il sermone della montagna, il cenacolo, la croce della tua redenzione. Glielo sta dicendo lei stessa. Peccato che non ti sia ancora possibile, ma queste cose, non avete nessun dubbio che le vedremo tutte quante. Eh? Come era fatto il cenacolo? Com'è stata l'ultima cena? Questo bellissimo film, se vogliamo chiamarlo così, ma non è un film, è un docufilm, caso mai. Sta lì pronto! Per essere ammirato da tutti quelli che escono dal carcere del tempo, se vogliamo chiamarlo così, ecco, dalla prigione della quarta dimensione, dove siamo appunto incatenati a questa galera, e volando via, allora cominciamo a muoversi dentro l'eternità creata e andiamo dove vogliamo, evidentemente. Favoriti da Dio che in nulla e per nulla contrista i buoni e legittimi desideri dei suoi figli che raggiungono la beatitudine. E qui Riccardo si arrende. Hai ragione. L'eternità dell'Eucaristia e l'eterno riposo dei fedeli defunti sono idee religiose che depongono a favore dell'esistenza della quinta dimensione. Ciò nonostante, Tenera Amata, muoiono le persone care. La giovinezza se ne va, si perdono le ricchezze, si rompono gli oggetti preferiti. Pensate quando rompiamo un oggetto caro, no? O quando qualcuno che lavora in casa nostra rompe un oggetto caro. L'ha rotto, ma non l'ha rotto. È che ad un certo momento non c'è più qui nel tempo, ma nell'eternità creata c'è ancora. Che ti preoccupare? Ma quella cosa era una cosa talmente bella, era un vaso prezioso, era una lampada tanto bella. Sta lì, sta! Non la vedi più nell'istante attuale. Pazienza! Non succede niente, non succede. E infatti, Tenera Amata risponde, questa è l'apparenza, niente altro. Ciò ti dà appunto un'altra prova della perenne esistenza degli esseri. Permetterebbe il Signore che tanto ci ama un desiderio legittimo, legittimo, per poi lasciarlo eternamente insoddisfatto. Il nostro Dio non dà e toglie i beni naturali, mai si pente dei suoi regali. Ti racconto un mio aneddoto. Quando morì mio figlio, il più piccolo, di 3 anni, di appena 3 anni, io ero desolato. Nella mia disperazione, dicevo al nostro Dio, perché me lo hai dato se così presto me lo dovevi togliere? Ecco la frase che qualunque essere umano mortale, con non ancora molto formato nella fede, direbbe all'Altissimo. Mai mi risollevai da questa pena nella mia vita mortale. Ma dopo che fui glorificata, il Signore mi portò a quegli spazi e tempi critici del mio passato. Mi consolò teneramente, come soltanto lui sa fare. Mi fece vedere la convenienza della morte prematura del mio caro figlio e lo mise vivo e splendente nelle mie braccia. Non te lo tolsi, disse l'Altissimo. L'ho solo preso in prestito. In questo modo, che era debolissimo, il ricordo del mio dolore materiale restò più che consolato, e ciò grazie alla persistenza delle persone in tutte le loro età di sviluppo e delle cose. Proviamo a pensare a questa cosa. Pensiamo ai momenti di grande sofferenza della nostra esistenza, no? Di grande dolore. Di quando avremmo, come dice la scrittura, no? È successo anche al nostro Signore sulla croce. Cercavo consolatori, ma non ne ho trovati. E sono rimasto solo nel mio soffrire, a volte magari anche incompreso, no? Senza nessuno che ci desse quella gioia del Cireneo, perché quando soffriamo noi cerchiamo qualcuno che condivida la nostra sofferenza, che la porti con noi. È bello, no? Nostro Signore si sta dicendo: guarda che tu adesso offrimela, è necessario, ti fa bene. Nell'eternità creata poi ci torniamo insieme a quei momenti. E lo so io come ti consolerò. Questo sta dicendo tenera amata. Bello, no? E un'altra prova ancora dell'esistenza dell'eternità creata. Il veemente desiderio che la bellezza e l'amore siano immortali. Questo ci appassiona a tutti. Ci noi siamo belli, desideriamo che questa bellezza perduri nel tempo immortale. Se viviamo una bella storia d'amore, oppure se abbiamo intorno persone che ci amano, desidereremmo che queste non finissero mai. Normale questo qui. E quindi? Guarda tutte le creature, siamo specchi del Creatore quando ci comportiamo rettamente. Orbene, l'amore dell'Altissimo è incompatibile con le frustrazioni definitive. Che significa? Significa che c'è una persona che ti ama, potrebbe morire. E quindi morire vuol dire che questo desiderio di infinito di quell'amore sarà frustrato. È una frustrazione temporanea, sta dicendo Terna Amata. Temporanea. Offrirei quella sofferenza, torniamo da dove siamo partiti oggi, a causa del maledetto peccato, la offrirai volentieri, ma tu sai bene che quell'amore non è finito. È soltanto un po' sospeso nella tua percezione sensibile attuale. Solamente fallisce per sempre il peccato senza perdono divino, questo sì. Dunque la bellezza, l'amore e gli esseri che li sostengono devono perdurare senza tramonto nella quinta dimensione. È vero, alcuni poeti cantano l'eternità con quella che ci attende, non con quella che ci attende, ma l'attuale. E tu invece, risponde Terra Amata, per un'equivoca condiscendenza alla fragile testimonianza dei tuoi sensi, resisti a credere nella logica persistenza di tutti gli esseri. È tanto vigoroso il desiderio dell'eternità creata, essendo un'esigenza del vero, che persino il linguaggio allunga la mano della sua grammatica verso la quinta dimensione. Il presente storico e il passato prossimo sono desiderio furtivo di perpetuità. Forse in futuro si imporrà la verità e si penserà e si parlerà in termini di quinta dimensione. Per adesso, prima del cambiamento di mentalità, voi adoperate verbi inesatti come perdere, annientare, accadere, a cui siete molto abituati, ma che non corrispondono alla realtà oggettiva. Poco a poco, tuttavia, a seconda che si riconoscerà la grandissima importanza dell'eternità degli esseri, si cambieranno i modi di agire e di parlare. Per quanto non sia un affare proficuo. Non è un affare proficuo perché non ci guadagni niente nessuno a fare questa cosa, no? E così passiamo al capitolo 17. Sì, abbiamo tempo di quantomeno introdurlo un po'. Non lasciavo di osservare il mio corpo di bambino. Qui adesso ritorniamo alla scena di San Luis Potosí. Paralizzato accanto al pianoforte con mia grandissima meraviglia, curiosità e qualcosa come amor proprio al mio prolungamento corporale infantile. Ti piacerebbe constatare, disse ad un certo punto tenera amata, guardate che roba qui, che tu e quel bambino siete la stessa persona? Provate a immaginarvi la scena, insomma, l'esperienza di quest'uomo. No? Provate a, che so, se ti fosse successo a te. Ti ritrovi a un certo punto, fuori del tempo comune, vedi una scena della tua infanzia, la rivedi, ma in questo modo, e vedi i fotogrammi bloccati, perché stai appunto in milioni di milionesimi di picosecondo, quindi vedi un'immagine fissa, però sai bene che quella cosa tu l'hai vissuta. Però Riccardo sta vedendo questa cosa dal lato dei suoi 50 anni sonati, ampiamente sonati. Quindi io e quel bambino siamo la stessa persona. Riccardo scrive: pensai che lei forse avrebbe permesso un colloquio tra me e il bambino. Ma allora come avrei dialogato con me stesso? Anche se delle volte ho fatto i miei monologhi, che meraviglia, adesso avrei dialogato con me stesso. Comunque rispondo. Sì, naturalmente sì. Bene, attenzione qui, ma prima voglio spiegarti che la tua unica anima si bilocherà, attenzione, a livello di coscienza, a livello della coscienza. Cioè, va ad operare coscientemente in due spazi-tempi diversi, nei tuoi due corpi. Ovviamente la tua anima sostiene la vita in tutte le tappe dello sviluppo biologico che giacciono nella quinta dimensione, ma senza che tu ne abbia coscienza. Capite cosa sta dicendo? La mia anima, la tua anima, sta sostenendo tutti quanti gli spazi e i tempi del nostro corpo integrale da quando siamo stati concepiti fino ad adesso. Qualcuno forse ne è cosciente che la nostra anima sta facendo questo lavoro? Domanda retorica, ovviamente, no? Quindi sono tantissime le operazioni che vengono fatte da Dio e anche dalla nostra anima al di fuori della nostra coscienza. Quindi non so se l'altra volta in questa sede, forse sì, ho, come dire, arringato di brutto contro la cosiddetta filosofia della coscienza che è nata con Cartesio e che ha segnato il pensiero filosofico ininterrotto, perché anche tutte quante le filosofie o pseudofilosofia che girano adesso, praticamente la filosofia della coscienza culmina con l'idealismo ideale, con l'idealismo hegeliano, quindi il vero è solo irrazionale, ciò che è intelligibile, che è poi l'ultima, come dire, ulteriore tappa di sviluppo estremo del pensiero degli illuministi, no? Ciò che viene dopo Hegel è la reazione a questo gigantesco sistema filosofico e quindi il progressivo attacco e tentativo di smontare pezzo per pezzo questa gigantesca conclusione, scusate, costruzione filosofica quale quella hegeliana. E questo che cos'è? È l'ultimo stadio di sviluppo della filosofia della coscienza, del cogito ergo sum. Ma non è vero affatto. Perché il mio essere è completamente dipendente dal cogito. Proprio non è proprio di completamente dipendente. La mia anima adesso sta animando tutti quanti i miei spazi-tempi precedenti. Cioè, quello che facevo a 3 anni, a 2 anni, a 4 anni, a 1 anno, a 5 anni, salvo gli spazi-tempi buttati nel peccato e che non siano stati sigillati dal perdono e, adesso non vorrei mettere troppa carne al fuoco, magari anche rifatti nella divina volontà per farli redivivere e avere quindi più spazi e tempi in cui godere nell'eternità creata. Quindi attenzione. La bilocazione significa che uno stesso essere spirituale, animo, umano, spirito angelico, attua coscientemente in due luoghi differenti allo stesso tempo. Oppure, questa è la bilocazione umana, no? È quella di Padre Pio. Attuare coscientemente in due luoghi differenti allo stesso tempo. E questo chiaramente è possibile soltanto per un miracolo dell'Altissimo. Noi non possiamo per forza propria in questo mondo attuare in due luoghi differenti allo stesso tempo. Impossibile. Però c'è un'altra forma di bilocazione, cioè attuare in due spazi tempi diversi, che è quella proposta da Tenera Amata a Riccardo. Quindi attuare è la stessa persona, non che attua coscientemente in due luoghi diversi, in contemporanea però, ma in due spazi tempi diversi. Si può fare anche questo? Figurarsi se a Dio è qualcosa impossibile, allora, la tua bilocazione in questo caso non sarà simultanea, perché tu dai, tenendo conto che 48 anni separano i tuoi due corpi, ma sarà in due spazi tempi diversi. Devo dirti, la bilocazione umana non è esclusivamente spirituale, poiché in essa, oltre l'anima, partecipa anche, attenzione, l'energia biologica del corpo, che all'anima è consustanziale e inseparabile da essa. La bilocazione cosciente e la multilocazione sono fenomeni assai frequenti nella vita celeste. A noi beati permettono di godere nuove sensazioni molto piacevoli. Capite? I beati si bilocano e si multilocano anche. Multilocano, capite che significa, no? Bilocare significa. E sicuramente i beati possono farlo in entrambe le dimensioni, cioè possono contemporaneamente fare cose differenti in maniera cosciente, contemporaneamente, senza che l'una e l'altra attività si disturbino, e così come possono multilocarsi in spazi-tempi differenti, contemporanei. Non deve questo farci stupire, perché c'è una partecipazione reale dell'eternità di Dio. Voi pensate che per Dio, Dio è ininterrottamente presente tutto e dappertutto, e tutto è immediatamente soggetto al suo potere. Dio è l'immenso, presente in cielo, in terra e in ogni luogo. È chiaro che un'anima beata, una persona meglio, impareremo a dire beata, partecipa di questo. E quindi, qui nella vita non possiamo fare né l'una né l'altra. Prima di Tenera Amata, quello che conosciamo con certezza, Padre Pio è il caso più famoso, ma non è l'unico. Sono i casi di bilocazione, cioè nello stesso spazio-tempo si attua contemporaneamente in due luoghi differenti. Pensate quando San Paolo dice che Cristo risorto apparve a più di 500 fratelli in una volta sola. Non è in una volta sola nel senso che erano tutti quanti insieme, no? Ma è che nel medesimo istante, nel medesimo spazio-tempo, è comparso a 500 persone differentemente sparse e riunite. Uno dice, ma come ha fatto? Se lo sapessimo come ha fatto saremmo già in paradiso. Noi possiamo capire che cosa ha fatto e che il potere divino può darti la possibilità di farla, come non era nostra portata, figlioli nostri, figlioli miei cari, no? La bilocazione si dà anche agli animali. O meglio, si dà anche negli animali. Al modo intellettuale, ovviamente no. Non lo possono fare. Perché? Perché l'anima degli animali non è spirituale, cioè non è capace di riflettere e di amare come lo fa l'uomo. Tuttavia, in un modo inferiore, esclusivamente energetico, sì che avvengono comunicazioni a grande distanza tra gli esseri viventi irrazionali. La loro anima immateriale è dotata di grandi poteri. Cosicché, obietta Riccardo, anch'essi hanno delle premonizioni in un modo molto inferiore a quello delle persone, ma sì che le avvertono. Non voler ridurre l'universo alla vita terrestre che conosci, alla materia e alle energie. Esistono moltissimi altri elementi ancora. Io non li conosco tutti quanti, ma potrei accennarti la sopraenergia e la infraenergia. Attenzione che qui Teneramata sta dicendo che molti, molti, molti elementi che caratterizzano l'universo gli sono ignoti. La sovraenergia e l'infraenergia molto comuni, di esse te ne parlerò più avanti. L'anima degli organismi inferiori all'uomo non mai potrà conoscere direttamente il nostro Dio, né lo possiederà con amore supremo, come avviene nei Beati, ma attenzione, ma attraverso l'uomo glorificato, attenzione che è come il sacerdote delle creature razionali. La materia e le energie, i vegetali e gli animali riceveranno la loro felicità. Ecco perché, per esempio, San Paolo scrive: la creazione geme e doglie fino ad oggi nei travagli del parto. Essa non è la sola, ma ad attendere la redenzione, come noi, che gemiamo attendendo la pienezza della nostra adozione filiale avvenuta col battesimo, cioè la redenzione della nostra vita e del nostro corpo. L'uomo glorificato è il sacerdote delle creature irrazionali, che vivono nella quinta dimensione e proprio lì saranno glorificati a modo loro. Bellissima questa immagine. L'uomo glorificato è il sacerdote delle creature irrazionali, cioè quello che è il compito di trasmettere attraverso alcune modalità specifiche, qualcuno poi Teneramata più avanti fa gli esempi, agli animali, che non possono, non potranno mai conoscere direttamente il loro creatore. Non possono fare perché ci vuole l'anima spirituale per questo. Loro hanno solo l'anima immateriale, abbiamo già spiegato nelle volte precedenti. Ma noi però potremo trasmettergli fondamentalmente dei godimenti e delle cose belle che vengono da Dio in quanto sacerdoti del mondo creato. Vorrei dire che vissero, perché la maggior parte di loro ormai è scomparsa. Gli animali, no? Di essi sta parlando. E risponde: anch'essi passarono per la quarta dimensione o tempo e morirono. Ma non dimenticare che esistono, che vivono per sempre nell'ambito dell'eternità creata. Per esempio, vedi quella mosca che è vicina al vetro più alto della finestra? Si trova in atteggiamento di volare, anche se per adesso non si muove. Lei vive in questo preciso spazio-tempo e senza saperlo attende proprio qui di essere glorificata. Ciò che ti dico di questa mosca serve lo stesso per quel cane randagio che si è sdraiato sul marciapiede. Si applica anche alla materia energia di questa finestra e di tutta la casa, di questo isolato e di tutta la città. L'amore universale che relaziona le cose create tra di loro e la relazione con il loro creatore si realizza interamente nel cielo. Attenzione, una finestra. Una finestra. La finestra, amici miei, questo lo sappiamo oggi con certezza, cosa c'ha? C'ha gli atomi, no? La letizia soprannaturale, come vedevo, è una questione di fusioni tra atomi. E quindi la finestra, che evidentemente gli atomi della finestra, che non hanno intelligenza, ma sono comunque parte della grande opera della creazione, bramano di unirsi agli atomi miei o tuoi al momento della rifrequentazione, diciamo così, di quel certo spazio-tempo della quinta dimensione che possib sarà possibile per noi soltanto dopo la morte, evidentemente, no? Vorrei dire che la maggior parte di loro è scomparsa, dice. Risponde, anch'essi passarono per la quarta dimensione o tempo e morirono. Ma non dimenticare che esistono, che vivono per sempre nell'ambito dell'eternità creata. Per esempio, vedi quella mosca che è vicino al centro della finestra, si trova in atteggiamento di volare anche se per adesso non si muove. Lei vive in questo preciso spazio-tempo e senza saperlo attende proprio qui di essere glorificata. Ciò che ti dico di questa mosca serve lo stesso per quel cane randagio che è sdraiato sul marciapiede e si applica anche, ho riletto tutto quanto il capoverso perché mi sembra importante, alla materia e energia di questa finestra, di tutta la casa, di questo isolato, di tutta la città. L'amore universale si realizza integralmente nel cielo. Ma quando saranno glorificate? Chiede Riccardo. Se ti dico il rapporto. Oh. Se ti dico il rapporto all'anno che stiamo vivendo, ti dirò che sarà un giorno. Ma se ti rispondo dall'eternità creata, ti assicuro che stanno ricevendo una glorificazione fino al limite della loro capacità naturale. Ricorda che il passato, presente e futuro, attenzione, sono nozioni puramente soggettive, anche se necessarie, dei viatori. Ebbene, in virtù dell'amore universale, e molteplice del cielo, il beato vive la sua gloria accidentale godendo e facendo godere le creature inferiori. Quindi attenzione, non solo rivedremo i nostri animali domestici, che qualcuno ogni tanto continua a chiedermelo, ma oh, li rivedremo per farli godere. Molto più di quanto li facciamo godere adesso. Che c'ha un cagnolino, c'ha un gattino, ogni tanto sapete che i cagnolini e i gattini, i cani sono sempre pronti, io ci ho avuto tutti e due, a un cane se gli fa una carezza, in qualunque momento, qualunque cosa che stia facendo, ti si strofina di cose, invece i gatti sono un po' differenti, quando gli prende bene, gli fa tutto quello che vogliono, se gli prende male, c'hanno voglia oppure stanno, non c'è un'atmosfera che li ispira, non li voglio. Sono fatti così. Sono diversamente, sono bellezze diverse. Ma io sapete quante volte ci penso? E glielo pure dico scherzando, dico tu, caro gatto, tanto sei fortunato. Come sarà essere glorificato nell'eternità precreata da un prete? Adesso con tutto adesso non è che voglio fare il superbo, ma un prete, insomma, cioè, io sono anche sacerdote, quindi non sono soltanto sacerdote del creato, ma sono proprio sacerdote, sacerdote. Io lo sto accarezzando con le mani consacrate, amici cari, ci penso a queste cose. Guardate che un touch con la mano consacrata non è come un touch con la mano senza consacrata. E quindi? Che cosa si andrà a godere e a rivivere quella creaturina? Tanta roba, no? Quindi, guardate adesso cosa fa, poi chiudiamo. È affascinante che tutti noi esseri ci troviamo vincolati da legami reciproci del gradevolissimo amore universale. Per soddisfare la tua curiosità, ti faccio adesso una dimostrazione. Glorificherò la mosca che è presso la finestra. Ecco una spiegazione. La mia bella beata si fece avanti un po' che avvicinò il dito indice all'insetto. che con le ali spiegate sembrava volare, ma che si trovava immobile. La mosca incominciò a svolazzare attorno al dito. Era entrata nel nostro paratempo. Capite? Era evidente la gioia dell'insetto. Vezzeggiava con le zampette e il dito di tenera amato. Uno potrebbe pensare alla mosca, ah, che schifo. No. Dall'altra parte non esiste che schifo. Fa degli esempi, può tenere amato. Il serpente a sonagli. La compenetrazione col serpente a sonagli. Uno potrebbe saltare dalla sedia. Io, il serpente a sonagli, per carità, a me fa ribrezzo soltanto vederlo. Adesso ti fa ribrezzo soltanto vederlo. Dopo non sarà così. Allora, la mosca cominciò a svolazzare. Era evidente la gioia. Vezzeggiavo con le zampette il dito di tenera amata e si voltava all'insù, carezzandolo con le ali. Senza timore, come se avessi dimenticato la crudeltà dell'uomo, l'animale si affratellava con la bella abitante del cielo. All'improvviso la mosca scomparve. Tenera amata però, senza muovere il dito, continuava sorridendo. La sto glorificando, gli dice. Ma no, la mosca è volata via. No, no, non se n'è andata, è dentro il mio dito. La sto compenetrando amorosamente per procurarle la felicità di cui essa è capace. Infatti la mosca si fece visibile e si afferrava al dito di tenera amata, si aggrappava con tutte le sue zampe, col corpo, con la proboscide e perfino con le ali tese ed oblique attaccate alla pelle del dito. Con l'altra mano tenera amata rimise la mosca al suo posto di prima. A fatica riuscì a fare che l'insetto si distaccasse e restasse esattamente nello stesso posto. Questa mosca, dice tenera amata, aspetterà eternamente nella quinta dimensione nuove e migliori glorificazioni che le verranno dal resto del cosmo, d'accordo con i disegni dell'Altissimo, e lei corrisponderà a sua volta spiegando effusivamente i doni naturali che le diede il nostro Dio. Possiamo fermarci oggi, amici, quindi come sempre credo tantissima roba. Venerdì prossimo sarà l'antivigilia di Natale, ma ovviamente ci saremo, perché quale modo migliore per prepararci santamente a Natale di un'altra bella prosecuzione di lettura di questo bellissimo testo che ci porta, credo ogni giorno di più, sulle ali di ciò che sarà la beatitudine, in qualche modo anticipandola nella rappresentazione che di essa ci consente di fare. Bene, amici, una santa notte a chi ha seguito la diretta, e a tutti, Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga. Carissimi amici e amiche, siamo tornati con il ciclo di catechesi dedicato al libro di Tenera Amata, giunto alla 12ª puntata. Io inizierei rapidissimamente la lettura perché il 13° capitolo dove siamo arrivati è abbastanza ampio e quindi richiederà un pochino di attenzione, un pochino di tempo, anche perché è il capitolo in cui si comincia a parlare esplicitamente della quinta dimensione, che è uno dei punti veramente fondamentali di questo testo, di questa opera. E quindi non è il caso di soffermarsi su introduzioni troppo lunghe, ma è bene procedere con la massima rapidità possibile alla lettura, amici. Ricorderemo, facciamo sempre un pochino di mente locale, quello che abbiamo visto nella scorsa puntata, molto molto bello, no? Ci siamo lasciati con Tenera Amata e Riccardo che stanno ancora a San Luis Potosí, rievocando fondamentalmente, o meglio, non rievocando, ma rivivendo, per quei prodigi appunto tipici della quinta dimensione, questa sera cominceremo a vedere ciò che successe diversi anni prima, cioè il momento dell'incontro tra appunto Riccardo e questa misteriosa ragazza che cantava questa canzone che fece nascere in lui i primi moti dell'amore. Riprendiamo la lettura. Per poter intravedere meglio il complesso universo, spiegò Teneramata, sono insufficienti le quattro dimensioni che conosci: lunghezza, larghezza, altezza e tempo. Con esse da sole devi far fronte a problemi incompatibili con la divina sapienza e con la tua stessa ragione. Allora, faccio una piccola parentesi. Una piccola prima sosta. Le nostre dimensioni della vita terrena sono queste, abbiamo già visto: la lunghezza, la larghezza, l'altezza e il tempo. Quindi lo spazio, che sappiamo lo spazio ha tre dimensioni, altezza, larghezza e lunghezza o profondità, no? I film in 3D, oltre che alla lunghezza e alla larghezza, hanno anche la profondità, no? E poi abbiamo il tempo, a cui, come ben sappiamo, stiamo legati come gli schiavi alla catena, che è l'istante attuale. Però questo vale per la vita di qua, ma per entrare nelle dimensioni dell'universo, queste quattro dimensioni sono insufficienti. Per esempio, per comprendere come mai quel corpo di bambino si trova in quel paratempo del passato. Andiamo adesso a continuare la lettura. Perciò non comprendi la presenza del tuo corpo di bambino in questo paratempo del passato, né riesci a spiegarti come mai sia possibile che l'Altissimo, innamorato delle sue creature, permetta il loro logorio o distruzione. Inoltre, ti è sempre sembrato un consumo inutile, uno spreco assurdo, l'annichilimento della bellezza, dell'amore, delle opere del lavoro umano, dei tuoi cari, dei complessi organismi viventi e delle cose in genere. E ne hai piena ragione. Le quattro classiche dimensioni non bastano a decifrare l'enigma della creazione e il senso della vita e dell'amore, il mistero del logorio e della fine delle cose, il perché delle catastrofi e delle catene alimentari, la tragedia della morte e le questioni escatologiche dell'aldilà. Potrà intravedere tutto questo attraverso la quinta dimensione o eternità creata. Scorgerai la stupefacente logica della creazione. Per questo il nostro Dio ha permesso che tu oggi intraveda oggettivamente questo inedito parametro del cosmo, e tale è la ragione del nostro viaggio nel passato. Il libro di Teneramata, da adesso in poi, terrà non conto di più di questa quinta dimensione, che è la sua caratteristica peculiare, che sconvolge alcuni nostri canoni. Vedremo che più avanti Teneramata addirittura afferma che ci sarà un giorno in cui queste cose diventeranno magistero della Chiesa. Ma è ovvio che al momento suonano come una bomba dirompente e fondamentalmente nuova. Anche se, come tutte le rivelazioni private, nuova sempre entro certi limiti, non del tutto nuova, perché si appoggia evidentemente a delle realtà già ampiamente esistenti nella rivelazione. Vedremo che poi, insieme all'eternità creata, c'è anche l'eternità increata, che è il mondo di Dio, perché Dio è eterno ed è increato. Non è una creatura. E quindi lui vive in questa dimensione che certamente scorre insieme all'eternità creata, ma che la trascende, che è la sua, che è l'eternità increata. Riprendo la lettura. L'eternità creata o quinta dimensione dà fondamento agli altri assi di coordinate dell'universo e li spiega. È il parametro che insieme con la lunghezza, la larghezza, l'altezza e il tempo attenzione, spiega la persistenza definitiva e senza termine di ogni essere, sin dall'inizio della sua esistenza in quanto tale, ma di tutto l'essere completo. Tutto l'essere completo, familiarizziamoci con questi termini, eh? Quindi persistenza definitiva e senza termine di ogni essere, dall'inizio della sua esistenza in quanto tale, ma di tutto l'essere completo, includendo tutto ciò che gli è accaduto nel trascorso del tempo e con tutte le sue tappe evolutive. L'eternità creata è come il magazzino meglio ordinato che conserva perpetuamente e realmente tutta la storia dell'universo. Allora, faccio una prima spiegazione, come dire, preventiva. Probabilmente questi concetti poi ritorneranno, però, allora, per capire meglio questo discorso dell'eternità creata, noi dobbiamo avere presenti dei concetti che sono filosofico-metafisici. Ecco, mi si perdoni il termine, sono metafisici, sono. Ecco, ok, allora, Dio è l'essere. L'essere è semplicemente ciò che è. E sappiamo che l'essere di Dio è un essere eterno, increato e immutabile. Come Dio rivela a Mosè, chi è Dio? Io sono colui che sono. L'essere, cioè l'essere allo stato puro. Quello che i filosofi, già greci, pensando a un qualche cosa che ci sovrastasse, dicevano: Dio è l'essere. E dicevano bene. Attenzione. Quando Dio esce fuori di sé e crea qualcosa, cosa che non è obbligato a fare, ma che fa liberamente, che cosa fa di fatto? Comunica il suo essere fuori di sé. Certamente creando dal nulla, ma una volta che quella cosa è creata dal nulla, l'essere lo ha ricevuto da Dio. Tant'è vero che Dio compie nei confronti di questo soggetto, chiunque sia, dalla pietra fino all'angelo, due operazioni. Primo, crearlo, quindi dargli l'essere, chiamarlo all'esistenza, e secondo, conservarlo nell'esistenza. Ora, ecco uno dei punti di contatto con la divina volontà. Per esempio, qual è il punto? Una cosa che è uscita dalle mani di Dio non può finire e non può tornare nelle mani, non può tornare nel nulla. Non è possibile. Non è possibile. Perché una volta che l'essere lo riceve da Dio, Dio non glielo toglierà mai. Perché toglierglielo sarebbe in un certo senso, neanche troppo remoto, rinnegare se stesso. Questo Dio non lo farà mai. La creatura, specialmente quella intelligente, può corrompersi, può diventare cattiva e per questo ci saranno delle conseguenze, anche gravi, ma l'essere non glielo toccherà mai nessuno. E attenzione, l'essere integrale che lui e che quella certa creatura ha, così come è stata creata da Dio. E qui vedremo anche, durante queste conversazioni, come intendere la nostra morte corporale. E qui cambieranno alcuni parametri, attenzione, di che cosa succede quando muoio e dopo che succede. Lo vedremo. Intanto Riccardo risponde: mi pare impossibile ciò che dici. Ti sto esponendo la verità, ma tu la respingi a priori, come la pallina in un gioco di ping pong. Non chiudere a priori la tua mente alle nuove idee scientifiche, purché non siano in contrasto con la divina rivelazione. Ti consiglio di studiarle prima. Beh, attenzione a questo passaggio. Quest'uomo chiaramente si sta trovando, riceve la rivelazione di una cosa che dice: ma no, non è possibile. E dice: stai calmo prima di dire così. E anche le nuove idee scientifiche, quando non contrastano con la rivelazione, studiatele prima di rifiutarle a priori. Vedete come tenera madre invita a fare una cosa che io modestamente, umilmente, cerco di fare in continuazione, di raccomandare cuore e menti sempre aperte. La realtà è una cosa molto grande, Dio è immenso poi, cioè noi no, se ci cominciamo a fissare o chiudiamo cuore e mente, ci mettiamo da soli out. Ed è una grande disgrazia, ma proprio grande, eh? Quindi mente e cuore aperti. Non dobbiamo avere paura di confrontarci con qualche cosa che magari ci va anche a cambiare qualche connotato. Perché se c'è da cambiarlo qualche connotato, lo cambiamo. E dice, no, non si può cambiare questa cosa perché, e poi chi lo sa che succede, e poi questa cosa contraddice, per esempio, pensiamo alle persone che si irrigidiscono perché loro percepiscono una certa cosa come contraria alla rivelazione, ma è tutto da dimostrare che lo sia, aspetta prima di. Cioè c'è sempre tempo per dire di no. Aspetta, prenditi un po' di tempo, pensaci un po'. Quante cose che cambierebbero, amici miei, anche nella vita di tante persone se si imparasse a fare questa operazione. Quante stupidaggini in meno si farebbero, quante cantonate in meno si prenderebbero. Va bene. Riprendo la lettura. L'esistenza di un essere. Qui Tenera Amata spiega, te stesso ad esempio, potrebbe paragonarsi, attenzione adesso, ad un gran mazzo di carte da gioco. Mi sono tentato di andarla a prendere adesso, di mettere davanti al video. Perfettamente cronologicamente accomodate. Ogni carta equivarrebbe, attenzione, a ciascun atto di esistenza, ad ogni evento, ad ogni momento del passato storico di tale essere. Tuttavia, l'osservatore, l'uomo mortale, cioè in questa condizione, con la sua coscienza legata al trascorso dell'istante attuale, da cui non ci possiamo liberare fino a quando siamo in questa vita, questo punto che è di evidenza empirica, ma di una importanza capitale. Perché ci fa capire tutta la nostra limitatezza fino a quando siamo qui, intrinseca e ineluttabile. Allora, che succede? Se tu sei legata al trascorso dell'istante attuale, vedi solo l'ultima carta, quella che corrisponde al momento presente. Ma dietro, nel magazzino del tempo passato, si troverebbero tutte le altre carte, e in un ordine ben preciso. Esse costituirebbero, attenzione, la storia eterna, reale e vivente di tale essere. E Riccardo risponde: che peccato che io non possa mescolare le carte della mia esistenza. Cioè, noi vediamo sempre l'ultima, fino a quando siamo, e l'ultima cambia in continuazione perché mano a mano che passano i secondi si va aggiungendo qualche carta sopra. È tutto quello che c'è prima, non lo possiamo né vedere con chiarezza né tantomeno riviverlo. Ce lo siamo già detto. E non possiamo neanche andare a vedere le carte che scopriremo tra 20 anni. Non lo vediamo. Adesso però, Riccardo comincia un attimo a capire qualcosa e dice: che peccato che io non possa mescolare le carte della mia esistenza. E Tenera Amata risponde: lo farai quando raggiungerai la beatitudine. Per adesso stai vedendo la carta che corrisponde alla tua età di 8 anni. Cosa hanno fatto di fatto? Entrando nella quinta dimensione, si sono retrodatati per quanto riguarda lo scorrere del tempo a 8 anni. Non so. Mi risulta difficile credere in questa eternità creata. Ti aiuterò con una similitudine. Per calcolare dove si trova un treno, basta conoscere la distanza e il tempo. Non occorre sapere l'altitudine, come succede nella posizione di un aereo. Mentre la locomotiva non si trasforma in aereo, sono sufficienti le coordinate della distanza e del tempo per calcolare dov'è il treno. Sarebbe però un grave errore, proseguì con celeste pazienza, negare l'esistenza dell'altezza sul livello del mare soltanto perché il meccanismo del treno non l'adopera per fare il calcolo della sua posizione. Ebbene, per vivere la vita mortale ti bastano le tue quattro coordinate. Ecco perché facciamo difficoltà a conoscere e a capire queste cose. Perché per quanto riguarda la vita terrena, altezza, lunghezza, larghezza, profondità basta, e tempo, bastano e avanzano. Ma siccome ti bastano e ti avanzano, come la locomotiva sul treno, dici, vabbè, siccome io cammino, non volo, quindi cammino, quindi mi basta la velocità e il tempo per sapere dove sto. Oh, scusate, la distanza e il tempo. Ma che significa questo qui? Che non esiste il livello, una possibilità di elevarsi, quindi di contare lo spazio 1000 metri d'altezza, 2000 metri d'altezza, soltanto perché a me, e io che ce faccio? Tanto io cammino sulle rotaie, che ci devo fare con questi parametri? Niente. Ma questo non è motivo sufficiente per dirti che non esistono. Non ti servono allo stato attuale, ma non è che non esistono. L'uomo mortale, prosegue Tenramata, non usa mai in pratica la quinta dimensione. Perché vive con la coscienza legata al momento presente, come la locomotiva alle rotaie. E a causa del castigo divino, al peccato originale e per l'attuale regime di fede, attenzione a queste parole, è nell'incapacità di servirsi liberamente della quinta dimensione trinità creata. A causa di cosa? A causa del castigo divino al peccato originale e per l'attuale regime di fede. Quindi questa realtà la intuisce appena, ma già la desidera senza riuscire a comprenderla bene. Riccardo obietta. Io non comprendo. E desidero questa quinta dimensione. E Teneramata gli risponde: ma certo che sì! La fame di eternità dovunque si manifesta. E comincia a fare un po' di esempi. Il vigoroso istinto di conservazione. I giuramenti di amore perenne. Noi se amiamo qualcosa o qualcuno, desideriamo nel cuore che quella cosa non finisca mai. Cioè, se io amo qualcosa o qualcuno e mi si mette la prospettiva che un domani potrei perderla, io starei male, no? Il desiderio di stabilità del focolare domestico, la fermezza architettonica dei monumenti eretti a grandi ideali, la tendenza a conservare la buona fame e la ricchezza, l'evocazione dei ricordi belli, grati, il mantenimento degli affetti, il collezionismo, l'odio verso l'oscuro buco della morte, dimostrano l'amore e il bisogno della quinta dimensione. Sono prove indirette della reale esistenza dell'eternità creata. Dopo la buona morte, attenzione, che succede dopo la buona morte? L'uomo glorificato recupera la libertà fisica, l'impero sulla natura, perduto a causa del peccato del mondo. E allora succede come se ad un tratto la locomotiva del treno acquistasse le caratteristiche dell'aereo. Il beato comprende l'eternità creata, la vive in tutta la sua pienezza ed esercita il dominio su di essa. E gode indicibilmente nel sentirsi eterno nel contemplare eterni i suoi simili, le sue cose amate e l'universo intero. Non è che la quinta dimensione verrà solamente dopo i tempi. L'eternità creata è già qui, qui e adesso, nel presente attuale. Obietta Riccardo, a me non mi entra nella testa l'eternità degli esseri. L'eternità degli esseri, attenzione a questa espressione, è perché nella tua mente, attenzione a questo, mi raccomando, attenzione a questi passaggi, qui siamo in passaggi molto molto delicati, è perché nella tua mente, qui, tu separi il tempo dallo spazio. Tu pensi che il tempo passa. Lo pensiamo tutti, ma non lo spazio. E ti sbagli. Facciamo un esempio, no? State vedendo questo video, no? Sono passati 22 minuti e 30 secondi da quando io ho cominciato. Però, dietro le mie spalle, di questa stanzetta della canonica, è tutto uguale. Quindi il tempo è passato, giusto? Ma lo spazio è rimasto immobile. Quindi dentro la nostra testa, lo spazio e il tempo sono due dimensioni, lo spazio poi ne comprende tre, altezza, lunghezza e profondità, separate, ma nella realtà non lo sono, dice Teneramata e spiega. Tu pensi che il tempo passa, ma non lo spazio, e ti sbagli. Ti voglio chiarire che cos'è lo spazio-tempo. Quando uno finisce di questo libro non parlerà più di tempo, ma parlerà sempre di spazio-tempo. Nell'universo oggettivo della realtà, il tempo e lo spazio sono inseparabili. Attenzione! Il tempo, e questa è la soluzione di un grande. Immaginate i filosofi quanto si sono scervellati sul problema del tempo. Chi conosce la filosofia lo sa. Pensiamo alle pagine che ha scritto Sant'Agostino. Molto difficili, tra l'altro, no? Sul tempo. Se si chiedevano, ma il tempo è semplicemente un'unità di misura convenzionale o è qualche cosa che esiste realmente e sta realmente nelle cose? Guardate che non è una sciocchezza, eh? E Teneramata risponde: il tempo non è solo il parametro che misura il movimento degli esseri. Era una delle definizioni storiche del tempo. Il tempo è la misura del movimento. Filosofica. No, è sbagliato. La verità è che il tempo è realmente nelle cose, non esiste separato da esse. Perché i corpi, attenzione, ecco le conquiste della scienza moderna, sono fatti di materia ed energia in movimento. E il movimento ha bisogno necessariamente del tempo. Allora, qui dietro sembra che è tutto fermo, ma non lo è. Ma questo lo sappiamo da dopo Einstein, perché tutto quello che vedete dietro di me, la scrivania, il quadro di Santa Gemma Galgani, la porta, l'armadio, è composto di atomi. Capito? E gli atomi non stanno fermi mai. Questo, spero che lo sappiamo, cioè qui un minimo, io penso però a scuola, io studiavo tanto, quindi, però penso che pure le scuole medie si dia un'infarinatura, no? Che si spiega che la materia è fatta di atomi, che l'atomo è la particella elementare della materia, ma l'atomo è in movimento, perché nell'atomo, come tutti quanti sappiamo, ci stanno gli elettroni che girano intorno al nucleo. Non stanno fermi gli atomi, sembra che stiano fermi. Questo è come il discorso che ci siamo già fatti, che noi stiamo viaggiando a 108.000 km all'ora intorno al Sole e 1.800 intorno a noi stessi. Ci dovrebbe venire il mal di testa che non finisce mai e sembra che stiamo fermi. Chiaro? È vero che il tempo è strettamente legato al movimento e lo misura, ma siccome non esiste nulla di ciò che è creato che non è in movimento, ecco che il tempo è nella realtà stessa delle cose, perché ogni movimento ha bisogno del tempo, perché deve essere, deve, può e deve essere misurato. e non può compiersi al di fuori del tempo. Ogni atto di esistenza, come può essere un cambiamento di forma, un fenomeno fisico, il fare un passo, una reazione chimica, qualsiasi movimento, una reazione chimica che noi non vediamo, è un movimento. È un movimento. E quella determinata cosa avviene in un preciso spazio-tempo indissolubile, inscindibile. Non credere che passa solo il tempo e che lo spazio rimane immutabile. No, certamente no. Questa è un'illusione dei sensi. La grande realtà oggettiva è che il tempo trascorre insieme con lo spazio che corrisponde a tale atto di esistenza. Quando l'orologio segna il passo di un secondo, non è passato solo il tempo, ma è trascorso anche lo spazio materiale corrispondente. Vi faccio un esempio. 30 secondi fa stavo leggendo questa frase. Quando l'orologio segna il passo di un secondo, non è solo passato il tempo, attenzione. Questa cosa non è successa soltanto 30 secondi fa, ma quella cosa è successa 30 secondi fa dentro questa stanza. Perché il tempo non è che io mi trovo qui adesso e non posso essere momentaneamente in nessun altro posto piuttosto che qui. Non posso, come fanno i beati, fare un bel volo come hanno fatto loro alla velocità molto superiore a quella della luce e trovarmi in un posto diverso o in un'epoca storica diversa. Lo posso fare perché? Perché sto legato, perché c'è il peccato originale, perché c'è il castigo del peccato originale. Quindi capite indirettamente, per questo che vi ho detto, attenzione, che queste catechesi sono tutte quante collegate sia a quelle dell'anno scorso sia alla divina volontà. Vi faccio un esempio per chi conosce la divina volontà. Le ore della passione. Cosa dice Gesù e quando le spiega? Quando si fanno le ore della passione e quando si agisce nella divina volontà, cioè quando non è semplicemente ricordarmi quello che Gesù ha sofferto per me 2000 anni fa. No. No. Quello che Gesù ha sofferto 2000 anni fa è in atto. E non è in atto semplicemente perché Gesù è Dio, è in atto perché è in atto nell'eternità creata. Io adesso non la posso superare la barriera che mi separa da qui a quando Gesù ha sofferto, ma la divina volontà, con la divina volontà, è un gioco da ragazzi, perché la divina volontà comprende nel senso filosofico, non nel senso del comprendere intellettualmente, ma tiene in sé tutto ciò che è stato, che è, che sarà. Quindi, fare l'ora della passione non è rievocare, ma è esattamente fare tutte quelle cose che Luisa scrive, cioè bacio, Gesù sta soffrendo, ti bacio la mano destra, ti bacio la mano sinistra. Attenzione che Gesù quelle cose le sente. Capite il collegamento? Le sente. Dice, ma come io sto qua e quello stava. Le sente perché grazie alla divina volontà sia anche in modo che non ce ne viene la percezione sensibile, questi bug, questi separatori spazio-temporali, io li posso superare. Spero di essere stato chiaro, spero. Qui chiaramente capirà qualcosa che conosce gli scritti di Luisa Piccarreta. Però pensiamo anche al guaio del peccato originale, catechesi dell'anno scorso. Capito di che cosa ci siamo privati? Perché avremmo avuto, da quello che dice Tenera Amato, il dominio della quinta dimensione anche qui. E alcune cose che fanno parte della gloria accidentale le avremmo avute quasi certamente anche qui. Pensiamo a quello che ha detto un po' di tempo fa, Tenera Amata, era forse la fine di 2 puntate fa, dice: che abiti ci avete in paradiso? Non ti scandalizzare, noi in paradiso gli abiti non ce li abbiamo, non servono. Chi è che non c'aveva gli abiti secondo la Sacra Scrittura? L'uomo innocente e la donna innocente, giusto? Allora, lo spazio-tempo dell'istante attuale, lo spazio-tempo dell'istante attuale è l'unica occasione per realizzare cambiamenti. Questo pensate, le implicazioni di questo concetto, no? Basti pensare al Salmo 94. Oggi ascoltate la sua voce. Ti devi convertire? Quando è il momento propizio? Subito! Ti manda il Signore un'ispirazione, mettila in pratica subito, perché è l'istante attuale, l'unica occasione per realizzare cambiamenti. Tu non puoi dire lo faccio domani, perché non ti appartiene l'istante attuale di domani, a te ti appartiene l'istante attuale di adesso. Per cui se il nostro Signore ti manda una buona ispirazione e ti chiama, falla subito, non aspettare. Faccio queste attualizzazioni perché così capiamo, cioè che questi non sono discorsi astratti e astrusi. Ci sono delle implicazioni molto molto concrete. L'istante attuale è il punto critico, dice Tenera, è l'unico punto, posto terreno dove avviene l'amore, il desiderio, il gaudio, il dolore, la morte. Ma il fenomeno, una volta effettuato, persiste immutabile con la sua materia, la sua energia e il suo spazio-tempo nella grande bottega della quinta dimensione. Cioè, se io prendo la mia morosa e gli do un bacetto così, questo bacetto glielo ho dato in un certo istante. Quindi in un certo spazio-tempo. Quel bacetto, gliel'ho dato, sembra che sia passato, ma in quello spazio-tempo corrispondente rimane, non si dissolve. Questo l'aveva capito pure Einstein. Con nulla si crea, il nullo si distrugge, tutto si trasforma. Il fenomeno, spiega Tenera Amato, una volta effettuato, persiste immutabile con la sua materia, energia, spazio-tempo nella grande bottega della quinta dimensione, giacché ha attraversato il pericoloso scenario del momento presente, uscito da quel posto che poteva. In che senso il pericoloso scenario? Quel bacetto potevo non darglielo. E quindi quella cosa non ci sarebbe mai stata, no? Quindi, pericoloso scenario, perché l'istante presente è il luogo dell'esercizio della libertà e bisogna vedere che cosa combiniamo nei singoli istanti presenti che si succedono nella nostra esistenza. L'istante attuale è la fabbrica degli atti di esistenza, buoni o cattivi, che nella vita futura serviranno ad una migliore beatitudine o ad un maggiore obbrobrio. Dal cielo contemplerai i monumenti dell'antichità, dalla loro erezione fino al crollo, perché l'esistenza si conserva incolume negli innumerevoli spazi-tempi trascorsi ed immagazzinati nella quinta dimensione. Ma vi faccio un esempio. Tutti quanti sanno che Padre Pio aveva il dono della conoscenza del futuro. Cioè, quelli che conoscono il futuro sono esistiti nel corso della storia. Domanda. Domanda. Come si fa a conoscere il futuro? Cioè, dice. Vabbè, quello è un dono di Dio. Certo che è un dono di Dio, per carità, e Dio lo può fare come meglio crede, no? Ma qual è il discorso? Che l'eternità increata, che è quella divina, contiene in sé l'eternità creata e Dio nella sua prescienza conosce tutto quello che accadrà nell'eternità, che mano a mano che si va compiendo per noi diventa eternità creata istante dopo istante. E quindi? Per lui è un gioco da ragazzi. Padre Pio diceva, come fai a conoscere queste cose? Lui rispondeva, Dio ogni tanto mi fa leggere nel suo libro. Suo libro che un giorno, in parte almeno, diventerà il nostro libro. È anche un grave errore supporre che il divenire si annichila. Ma manco per niente. Ti aiuterò con un'altra similitudine. Come la macchina da cucire va ricamando e i punti si conservano minuziosamente ordinati sulla stoffa, così l'uomo ricama nel passare col l'ago del momento presente sulla stoffa della sua volontà, guardate, e col filo della legge del Signore, e secondo il suo disegno sul viatore, la costura della sua esistenza. Quindi, attenzione, eh? L'ago è il momento presente, la stoffa è la nostra umana volontà, il filo è la legge del Signore. Se vogliamo costruire una bella veste nuziale, e il disegno? Perché c'è un disegno per fare. È il disegno di Dio sul viatore, che c'è il nostro Signore. Il saliscendi del lago rappresenta l'istante attuale. Il punto significa il momento che si effettua, l'atto di esistenza. L'atto di esistenza significa quello che tu stai facendo adesso. Io adesso, il mio atto di esistenza, sto parlando, sto per capire che è un atto di esistenza. Sto parlando, sto facendo una catechesi, non sto parlando, speriamo che non sto parlando a bambera. Sto parlando davanti ad un computer che so benissimo essere connesso ad internet e per cui ci sono 184 persone in questo momento che mi vedono in diretta e lo so. E altre che mi vedranno in differita e che ascolteranno queste cose in differita. Questo è l'atto di esistenza che io sto compiendo in questo momento. Chi sta ascoltando, sta ascoltando. Sta ascoltando, magari in contemporanea, vede uno schermo, quindi vede la mia faccia e sa che io, cioè, certamente, che ci sono veramente, quindi che sto parlando realmente. Chi sta seguendo la diretta su Telegram, ovviamente. L'atto di esistenza, una volta realizzato, è lo spazio-tempo che conserva l'azione compiuta e che si aggiunge preciso agli altri per formare il lavoro. Allora, sempre per fare un esempio per farvi capire, oggi è il 18 novembre, giusto? Sì. Io sto a Sermoneta e sono le 22:17. Sta catechesi è cominciata alle 21:03, tra poco finirà. D'accordo? È il nostro tempo. Ma per tutta l'eternità, il 18, cioè questo spazio-tempo che si è venuto costruendo con quello che ho fatto in quest'ora, rimane. Rimane. Così come tu che sei stato a passare questo tempo, speriamo che sia tempo ben speso, a ascoltare quello che dico. Questo rimane, questo qui. Passerà per te. Perché quando ci salutiamo, tu continuerai a vedere l'ultima carta del mazzo di carte, ma dietro questa cosa rimane, non finisce. Allora, quindi è lo spazio-tempo che conserva l'azione compiuta e che si aggiunge preciso agli altri per formare il lavoro. E il lavoro sta a raffigurare l'uomo per intero e tutta la sua storia. La bellezza del ricamo, quindi sarà un bel lavoro la nostra vita, dipende e risulta dalla libera collaborazione virtuosa in amore di carità della stoffa della volontà umana col filo della volontà divina. E il capolavoro si conserva per sempre nell'astuccio inviolabile della quinta dimensione. Tuttavia, tenera amata, attenzione perché qui è sottile, perché questo lo pensiamo tutti quanti. Quando una cosa si trasforma, lascia di essere quello che era, diventa un'altra cosa. Ecco dov'è l'errore, risponde lei. Ecco dov'è l'errore. Ti ingannano i sensi. Ti presentano le trasformazioni, le distruzioni, la morte degli esseri come eventi definitivi ed irreversibili, perché te li presentano dalla prospettiva dell'istante attuale. Cioè, mo, devo prendere qualcosa. Evidenziatore. Se io tolgo il tappo e supponiamo che me lo mangio o lo butto, dico, ah, questo evidenziatore è rimasto senza. Il tappo non c'è più. Non c'è più da questo momento in poi. Ma quando io ho preso le. Fino a 3 minuti fa, fino a 30 secondi fa. Il tappo c'era. Ecco allora, sentiamo tenera amata. Non ti lasciano vedere i sensi che lo spazio materiale che trascorre insieme col che lo spazio materiale trascorre insieme col tempo. Cadi nella trappola che è il legame della tua coscienza col momento presente, la suggestione collettiva degli schemi mentali erronei ma molto radicati e la tua atavica ignoranza. Ti tendono. Tu confondi infantilmente il passato che non ti è più possibile guardare col presente che stai osservando. Purtroppo è che, essendo viatore, non puoi fermarti nella corsa degli spazi-tempi. Non possiamo fermarlo. Non possiamo fermarci. Continui sempre al galoppo, cavalcando ben legato sul veloce destriero del tempo normale della Terra, l'istante attuale. Senza nemmeno la possibilità di girarti a contemplare a tuo piacimento il maestoso orizzonte della persistenza di tutti gli spazi-tempi delle cose che hai appena lasciato indietro. E allora è chiaro, tu concludi che il passato remoto finì, perché non lo vedi più, e che il passato più prossimo quasi si fonde con l'istante attuale. Perciò ti risulta difficile accettare l'esistenza perenne del tuo corpo infantile. Qui sta tornando a quello che sta vivendo Riccardo. Dice, ma com'è possibile che io torno indietro e che c'è quel bambino di 8 anni che sembra che sia vero? Tu confondi l'organismo che possiedi nel momento presente con la ininterrotta serie di fasi di sviluppo biologico fin dal tuo concepimento. Esse racchiudono in minuzioso ordine cronologico la innumerevole quantità di atti di esistenza corrispondenti agli spazi-tempi che ti è toccato vivere. E tutto questo perdura sempre vivo, senza fine, nell'imponente realtà oggettiva della quinta dimensione. Capite cosa sta dicendo? Che tutta la nostra vita passata è, e quando sarà il momento, io la posso rivivere istante per istante, tutta, fin nei minimi dettagli. Riccardo esclama, è inconcepibile che i miei sensi sbaglino fino a questo punto. Che risponde tenera amata, secondo voi? Così avviene a causa del peccato. Così puoi incominciare a percepire un po' la trascendenza del male morale. Cioè, voi capite quello che sta dicendo? La trascendenza del male morale. Cioè, tutta questa nostra incapacità di raccapezzarci niente con queste cose qui dipende dal peccato. Ma voi immaginate quanti esseri umani hanno la percezione di questo qui. Nei viatori è facile l'inganno sensoriale. Per esempio, nella stazione ferroviaria, delle volte un treno incomincia a muoversi con tanta soavità che non si avverte. Tutti quanti ci abbiamo fatto caso, no? Avete visto, no? Delle volte che succede, uno sta alla stazione e sta vicino ad un altro treno. Si gira e vede un movimento. Non vi è mai capitato di confondervi? Cioè, uno pensa che è partito il treno proprio, invece poi si accorge e dice: no, io sto fermo, devo andare dall'altra parte, è partito quell'altro, e viceversa. Se tu guardi dal finestrino e osservi un altro convoglio sul binario appresso, appunto, non riesci a sapere quale treno è fermo e quale è in movimento. Ti occorrerebbe un punto di riferimento, devi guardare dall'altra parte. Un palo, per esempio, se lo vedi dall'altra parte, e così capisci chi è che si muove e chi è che sta fermo. Ma purtroppo per te non c'è un punto di riferimento per convincerti che il divenire non si annichila, ma si conserva negli esseri. Sebbene ti sembri che succeda il contrario. Attenzione, qui noi, anche quando faremo le domande, cioè dobbiamo entrare in un orizzonte. Stiamo lottando contro una cosa che per noi è assolutamente inevidente, cioè è evidente assolutamente il contrario. E in questo senso, però, siamo un pochino aiutati nell'essere uomini e donne di fede. Perché noi vivendo nella fede, noi stiamo in continuazione facendo degli atti appunto di fede. Perché l'evidenza dei sensi nelle cose della fede è un inganno continuo. Chi ci crede veramente, per esempio, nell'Eucaristia e si comporta di conseguenza, sa bene che quello non è un pezzo di pane. Però i sensi ti attestano il contrario, eh? Perché i sensi attestano il contrario. Perché quella cosa non cambia, non cambia forma, non cambia odore, non cambia colore. Non cambia sapore, non cambia consistenza. Tutto ti dice il contrario di quello che è. Tutto. Pensate che, cioè, io vedo l'ostia consacrata esposta solennemente nel tabernacolo. Lì c'è Gesù Cristo, Dio vivo e vero. Questo dice la Chiesa, eh? Questo dice la fede. Non è che c'è, dice, sai, c'è il corpo di Cristo, quindi ci starà, che ci starà un pezzetto di cuore. No, no. Attraverso la presenza sacramentale della sostanza della carne, certamente del corpo di Cristo, ma è presente tutto Cristo, tutto intero. Qualcuno potrebbe dire: ah, certo, è evidente che è così. No, è evidente il contrario. Questo prosegue. Lo vedrai nel cielo, però, disse raggiante di gioia. Contemplerai la storia dell'universo come se fosse un enorme album di fotografie. Potrai contemplarle in qualsiasi ordine, non solo cronologicamente, così come accaddero, ma anche prima le ultime e poi le prime, o confrontarle indistintamente a tuo piacimento. Ma nella quinta dimensione, però, attenzione. Non si guardano ritratti, cioè si contempla la realtà stessa sempre perenne. Non sono fotografie, non sono ricordi, sono realtà vivibili e contemplabili. Nel cielo non esiste l'incatenamento della tua coscienza col momento attuale, non c'è più. Né il bisogno delle classiche nozioni puramente soggettive del presente, del passato e del futuro. Perché? Perché si entra nella dimensione della eternità la vita eterna, questo lo dice pure nel credo, eh? Questi si intrecciano a seconda che vogliamo e ci servono da mezzi per aumentare i nostri godimenti. Nello sbaglio dei sensi qua sulla terra avviene come nella visione binoculare. Ed qui fa riferimento a delle cose di fisica, a parte che non sarei in grado di spiegarlo, ho delle reminiscenze anch'io informi, però le leggi dell'ottica, qualche cosa dovremmo ricordarla, no? Ognuno dei tuoi occhi, visione binoculare, no? Forma nella sua retina l'immagine di uno stesso oggetto. Allora dovresti vedere, noi abbiamo due occhi, giusto? Se io sto guardando adesso lo schermo del computer, sia la retina dell'occhio destro che la retina dell'occhio sinistro è impressa dall'immagine del computer. E perché di computer ne vedo solo uno e non ne vedo due? Dovresti vedere due oggetti corrispondenti alle due immagini, invece ne vedi uno solo. Però basterebbe, fate la prova, una leggera pressione ad uno dei tuoi globi oculari, fatela questa cosa qua, adesso. E vedrete subito due immagini. L'avete fatto? Fatelo. Chiaro? In modo analogo, quindi, che cosa ti sta dicendo? Tu adesso non la vuoi vedere l'eternità creata perché non c'hai il dito sull'occhio e non ce lo puoi mettere. Dopo sì. In modo analogo, appena contempli quello che succede nel momento presente, dal momento che, come ti dicevo, la tua coscienza si trova legata al decorso dell'istante attuale, indebitamente giudichi che questo costituisce tutto il vero, mentre invece ti fa vedere solo la piccola verità del momento presente. Non confondere la fugace evidenza piccola e incompleta che ti offrono i sensi nel momento presente con la grande realtà oggettiva e perenne dell'eternità creata o quinta dimensione. È un vero peccato che tu non possa constatare l'esistenza dell'eterno magazzino di tutti gli esseri. Nel tuo stato di viatore, la massima prova possibile è questo che contempli in questo paratempo. Ebbene, per acquistare la certezza morale, non l'evidenza assoluta, che per i viatori è impossibile, non serve la leggera pressione di uno dei globi, su di uno dei globi oculari. Invece può servire una prudente pressione sulla buona volontà, affinché senza pregiudizi tu mediti l'esistenza e la trascendenza della quinta dimensione. Quindi, quello che abbiamo fatto con gli occhi, che serve a poco, facciamolo sulla buona volontà. Vediamo come si aprono gli orizzonti. E giungeremo, dice, non alla certezza assoluta, che è impossibile, ma a quella morale circa l'esistenza di questa quinta dimensione. Dice, obietta Riccardo, nonostante tutto, se si rompe un bicchiere, come bicchiere è finito. E lei risponde: no, perché la rottura accade in un dato momento. Ho fatto l'esempio prima del pennarello che stappo, ma non nel momento anteriore né in tutto il tempo che il bicchiere fu bicchiere. Si spezzò nello spazio-tempo del suo ultimo atto di esistenza. Così cominciamo a capire un pochino cosa avverrà il momento della nostra morte, eh? Già si capisce da qui. Ma nella quinta dimensione conserva intatti tutti gli spazi-tempi corrispondenti ai suoi atti di esistenza. Che ci hai fatto con quel bicchiere? Cambiamenti di posto, di colore, che ci hai messo dentro? Il vino, la Coca-Cola, il whisky, l'acqua. I cambiamenti di posto, di colore, di contenuto, di deterioramento e di uso, giacché lo fabbricarono, dal momento che lo fabbricarono fino al momento prima di rompersi. Quindi non è vero che quel bicchiere non c'è più. Cioè non è vero che è finito il bicchiere. A un certo punto ha avuto un ultimo atto di esistenza, ha cessato di essere bicchiere. A un certo punto. Ma tutto quello che è stato è e rimane. Tenera amata, ma come si può evitare l'infausto inganno dei sensi? Risponde. È molto semplice. Rimani sempre presso l'Altissimo nella sua grazia, in spirito e verità. Se l'inganno sensoriale compromettesse la tua salvezza eterna, sii certo che lui provvederebbe al rimedio. Ma se l'inganno continuasse, puoi essere certo che tale verità non ti è necessaria per raggiungere la beatitudine. Dopo la comprenderai nel cielo. Qui però il dovere di fare da parte tua il più che puoi per uscire dall'errore. Gli inganni sono infiniti. Per esempio, sapere che esiste la quinta dimensione, queste cose belle che stanno, non è necessario per andare in paradiso. La conoscenza di queste cose ti fa soltanto aumentare il desiderio di andare in paradiso, ma non è necessario, perché per andare in paradiso bisogna osservare i 10 comandamenti e professare la fede divina e cattolica, basta. Perché chiama eternità creata questa quinta dimensione? Risponde, abbiamo quasi finito, forse sforiamo leggermente di un'ora, però concludiamo questo discorso. Per distinguerla dall'eternità assoluta dell'Altissimo, capirai che l'eternità creata non può essere il possesso, attenzione, non può essere il possesso totale, simultaneo e perfetto di una vita senza termine. Attenzione che questa definizione dell'eternità creata è molto simile, per chi conosce la filosofia, a quella di Boezio. Siamo nel primo millennio avanti Cristo, eh? Ciò corrisponde all'eternità immutabile esclusiva del nostro Dio. Attenzione, ripetiamo, che cos'è l'eternità immutabile del nostro Dio? Possesso totale, simultaneo, attenzione, perfetto, di una vita senza termine. Questo è il mondo di Dio. Gli esseri creati hanno molte limitazioni. Perdureremo per sempre, ma la nostra esistenza ebbe un inizio ed innumerevoli cambiamenti che in Dio non ci stanno. Neemia 9,5 proclama queste nozioni. Su, alzatevi e benedite il Signore vostro Dio dall'eternità creata all'eternità increata. Io, attenzione, ho notato qui a caratteri che il testo ebraico dice proprio così, dall'eternità creata all'eternità increata. Neemia 9,5. Se ho notato questa cosa, vuol dire che mi sono andato a leggere l'originale ebraico per vedere, ma dice proprio così? Sì, dice proprio così. Alzatevi e benedite il Signore vostro Dio dall'eternità creata all'eternità assoluta. Ma d'altronde l'eternità creata, scusate, non è il contrario del tempo, già che il tempo e la quinta dimensione sono parametri coesistenti. Persisteremo senza fine sin da quando incominciò la nostra esistenza, ma sempre ci situeremo in qualche frequenza temporale. Il nostro organismo glorificato non può vivere in uno stato atemporale. Ecco perché il tempo è nell'essere stesso delle cose create, non in Dio. Perpetuamente staremo passando dal desiderio all'immediato possesso del ben amato, dalla potenza all'atto. Aristotele, qui purtroppo, amici miei, cioè qui c'è stato tutto qua dentro, c'è stata l'alta filosofia, l'alta metafisica e pure l'alta scienza, quindi questo è un testo che non è che è tanto tanto semplice in alcuni passaggi. Solo il creatore è atto puro. Adesso per spiegare questa cosa qui dovrei fare una lezione di un'ora di metafisica aristotelica, quindi magari lo riprendiamo la prossima volta, moriamo appunto. Nel cielo siamo liberi per scegliere tra due beni, ma non tra il bene e il male, poiché la nostra volontà persiste abbracciata al bene infinito. E come sai, la materia e l'energia non possono esistere senza la quarta dimensione. Tempo. Riprendiamo la prossima volta da qui. Abbiamo sforato soltanto di un minuto. Appuntamento alla prossima settimana, se Dio vuole, come sempre con la mia benedizione. e alla prossima. Carissimi amici e amiche, bentornati. Nuova puntata, questa dovrebbe essere l'ottava puntata del ciclo di catechesi dedicato a tenera madre. D'altronde è abbastanza facile capire, c'è sotto gli occhi il capitolo 8, quindi è chiaro che è l'ottava puntata. E continuiamo il nostro splendido, almeno a mio parere, viaggio in questo mondo davvero splendido, oltre che in larga parte inedito, e già preannuncio che questa sera ci saranno nuove strabilianti sorprese, per cui non esagererei troppo nelle introduzioni per passare quanto prima alla lettura di questo appunto ottavo capitolo, soltanto ricordando che la volta scorsa ci siamo lasciati approfondendo un po' la modalità di comunicazione che stavano adoperando questi due personaggi, uno celeste e uno terreno. C'era una comunicazione al modo celeste, però adattata al fatto che il destinatario di quella comunicazione era un mortale, e quindi una comunicazione senza parole, quindi senza l'ausilio della parola esterna, quindi attraverso la comunicazione del pensiero, così come avviene tra i beati, ma utilizzando il modo con cui si può fare questa operazione in questa terra, che è poi lo stesso che usa Dio in persona e anche purtroppo il nemico di Dio per suggestionarci al male il secondo, per ispirarci al bene il primo, quindi componendo i nostri pensieri, le nostre idee dentro certi concetti che poi vengono presentati alla nostra attenzione. È per questo che, come accennavo, i grandi maestri di spirito, i grandi maestri del discernimento degli spiriti dicevano che quando ci viene un pensiero dobbiamo chiedergli la carta d'identità, però dobbiamo soprattutto imparare a riconoscerla, perché i pensieri non ce la danno la carta d'identità, ma è un modo di ironico per dire che ogni pensiero può avere una triplice sorgente: Dio, io o il diavolo. Imparare a raccapezzarci a raccapezzarsi, diciamo, in questo ambito è molto importante per la nostra vita, però evidentemente è argomento che esula da quello di cui stiamo parlando. Ci ho fatto un ciclo di catechesi che dovrebbe stare ancora da qualche parte in giro sul discernimento degli spiriti, e per cui chi volesse approfondire questo tema può andarlo a ricercare, che da qualche parte dovrebbe stare ancora in giro. E passiamo al capitolo 8 di oggi, comincio subito la lettura. C'eravamo lasciati, leggo l'ultimo capoverso, rileggo l'ultimo capoverso tanto per agganciarsi, in modo tale che possiamo cogliere il senso della frase da cui ricomincia il dialogo tenera amata. Riccardo concludeva dicendo, anzi pensando, quindi scrivendo questo, no? Era ammirabile la conversazione con la mia amica glorificata, perché nonostante si svolgesse in mille milionesimi di picosecondo, tenera amata mi lasciava pensare con calma e guidava le mie riflessioni con tutta opportunità. Se sapessimo dialogare così noi mortali sulla terra. E qui entriamo nell'ottavo capitolo. Non ti pare magnifica la provvidenza di Dio nei doni e negli aiuti ai suoi amati figli umani? Mi chiese tenera amata con quelle sue due fossette alle guance che già in anticipo mi tenevano convinto. La verità è che non sospettavo tutto questo, risponde Riccardo. Riprende tenera amata. L'azione soprannaturale del nostro Dio per i mortali è quasi sempre inaspettata. Alcuni la chiamano sorpresa, caso, destino. Ma in realtà queste espressioni sono i nomi laici della divina provvidenza. Perché chiami soprannaturale questa azione divina? Perché è una cosa molto al di sopra di quello che il mortale ordinariamente conosce. Si tratta di una mozione superiore a ciò che per il viatore è naturale, comune e normale. Il che non significa che il soprannaturale sia raro, anzi, è molto frequente tra i veri cristiani. Prima piccola pausa. Quello che comunemente si chiama sorpresa, caso, destino, ci dice Tenera Amata, in realtà sono operazioni della divina provvidenza, che è sempre molto attiva e intraprendente nei riguardi di noi, suoi amatissimi figli, no? Non ti pare magnifica la provvidenza di Dio nei doni e negli aiuti ai suoi amati figli umani? E a questo dobbiamo imparare a farci molto attenti e non essere sciocchi, ricordando che il soprannaturale non è raro, a detta di questa abitante del cielo, ma molto frequente tra i veri cristiani. Quindi, quando una persona vive un rapporto sincero, profondo, intimo, con il Signore, non deve affatto stupirsi di piccoli o anche medi o anche addirittura in qualche caso grandi fenomeni soprannaturali che dovessero accadere, che sono normalissimi. Non c'è niente di strano, né pensare se gli è accaduto una cosa del genere che sia chissà quale grande privilegiato, o quale grande mistico, o quale grande santo. Tutto normale. Ti pare che il nostro Dio, che ci ama così tanto, non ci fa qualche carezza, non ci fa qualche regalo, non ci fa qualche dono? Certo che ce lo fa. È solo mettersi in condizione di poterlo ricevere e poi saperlo riconoscere. Infatti Riccardo prosegue dicendo: ma non si vede che questo soprannaturale sia molto frequente tra i cristiani. Sei tu che la respingi a priori. A priori la giudichi impossibile, impossibile, e il Signore ti cerca ansiosamente, ma si fa pregare. Causa di ciò è lo spaventoso peccato del mondo. Il disprezzo, l'indifferenza, la dimenticanza che esiste un Dio onnipotente che ci ama, attenzione al termine, appassionatamente. Se io potessi cooperare a fare che tu e l'Altissimo vi deste la mano, se io potessi intervenire affinché tu e lui vi stringeste in un ineffabile abbraccio di amore, di carità, mi sentirei la più fortunata tra le piccole beate. Attenzione ai termini. Chi conosce qui, per esempio, gli scritti di Luisa Piccarreta, in particolare le ore della Passione, non farà difficoltà a rinvenire una identità del termine. Qui vediamo se riesco ad andarla a trovare. Qui Tenera Amata ci dice che il nostro Dio ci ama appassionatamente. Quindi non è, come dire, l'amore freddo, etereo, platonico. Oh no, no, ci ama appassionatamente. E attenzione, vado a cercare al volo, che tanto lo trovo subito, basta scrivere appassion. No, ho sbagliato ebook. Ecco le ore della passione. Guardate. Siamo alla sesta ora e Luisa, mentre contempla Gesù che soffre a causa delle anime che si abbandonano anziché farsi attenti a lui, stiamo nell'ora dell'abbandono da parte degli apostoli nel Getsemani, dice: quanto ti compatisco, o amante appassionato. Lo chiama così, amante appassionato. C'è questo scarto, no? Tra questo Dio che ci ama così tanto e l'orrore, dice lo spaventoso peccato, cioè disprezzo, indifferenza, dimenticanza. Ricordiamo le rivelazioni che Gesù fece a Santa Margherita Maria la Cocca, le drammatiche rivelazioni del Sacro Cuore. Ecco il cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve in cambio che appunto ingratitudine, indifferenza, disprezzo e perfino sacrilegio su sacrilegio nel sacramento dove questo amore appassionato è depositato e disponibile per tutti, che è la Santa Eucaristia. E se mi posso permettere, questi atteggiamenti esecrabili, terrificanti, sono proprio, cioè proprio di disprezzo, di a volte dimenticanza, sono proprio nei confronti dell'Eucaristia. Oggi si fanno troppe comunioni, e lo dice un sacerdote, che un sacerdote dovrebbe, la gioia più grande di un sacerdote è vedere una persona che si fa la comunione, di per sé, ma si fanno troppe comunioni, fatte malamente. Cioè, se potessi cooperare a fare che tu e l'Altissimo vi deste la mano o vi abbracciaste in un ineffabile abbraccio di amore e di carità. Sentire queste cose ci faccia per esempio capire che cos'è la vera preghiera. La vera preghiera, basta leggere i testi dei maestri di spirito, si nutre di queste cose. Cioè nella preghiera l'anima, nel segreto, dinanzi al suo Dio, si affondisce. Signore, magari te potessi prendere per mano, o se ti trovassi da qualche parte e ti potessi abbracciare. La vera preghiera è l'amore. Se uno va a studiarsi Sant'Alfonso, Maria di Liguori o San Francesco di Assisi, come si fa la meditazione? Adesso lo sintetizzo in 2 minuti. Dai. Ti metti alla presenza di Dio, fai il segno della croce. Fai l'atto di dolore, invochi lo Spirito Santo, leggi un testo, ci cominci a pensare un po' e dopodiché passi al dialogo e dopodiché gli affetti. Che significa gli affetti? E tutti i maestri di spirito dicono che tutto quello che hai fatto prima tende a questo, perché la preghiera cerca l'unione e l'unione si realizza nell'amore e l'amore è una cosa molto, molto passionale, molto affettiva. La gente non pensa che con Dio si possa o si debba avere un rapporto di questo genere. Ma è così. Ma io sono sicurissimo che la stragrande maggioranza delle persone non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello e non hanno mai avuto una cosa di questo genere. Mai. Non l'hanno mai fatta. Santa Teresa d'Avila, che abbiamo festeggiato da qualche giorno, dice: sta attento, quando nella preghiera ti parte il cuore, tra virgolette, lascia qualunque, dice: ma no, ma stavo a pensare a questa cosa, lascialo perdere. Perché tutto quello che si fa, tant'è vero che la preghiera contemplativa è quella in cui non serve più mettersi a riflettere, a pensare, cioè che il cuore prende parte subito quando si entra in contatto con l'Altissimo. Vabbè, chiudiamo la parentesi e proseguiamo con la lettura. Allora, questa meravigliosa intervista è come una lotteria che avessi vinto. Sì, qualcosa del genere. E non immagini quanto sia grande, già che riguarda la ricchezza di idee, convinzioni profonde e operative che ti dona il nostro Dio. Ritorna questo termine, no? Lo conosciamo già. Se ne saprai approfittare bene prima della tua morte, ti apporteranno una gloria più importante del guadagno di molte migliaia di miliardi di dollari. Sebbene dovrei dire invece di dollari, titoli speciali di credito, perché vedo nella tua memoria sensitiva che attualmente è disceso il valore del dollaro. Vedete che i santi fanno anche un pochino di ironia, no? Chi di noi, per esempio, pensa che, cioè, vedi, dice, queste convinzioni che ti sto dando ti procureranno una gloria più importante in cielo. Se ne saprai approfittare, quindi tradurle poi in opere. E questo vale più che se guadagnassi migliaia, molte migliaia di miliardi di dollari. Prova a pensarci, tu che stai ascoltando in diretta o in differita queste cose. Se ti dicessero, ma che preferisci? Qualche buona conoscenza, qualche buona dritta, ecco, che se la metterai in pratica ti procurerà una gloria maggiore in paradiso, oppure, ma non è uno scherzo, trasferimento sul conto corrente bancario di 10.000 miliardi di euro. Subito. Rispondi e di la verità. Oh, 10.000 miliardi di euro, mo sto facendo il diavolo tentatore. 10.000 miliardi di euro. Cioè, non ti basta tutta la vita per spendere 10.000 miliardi di euro. Cioè, un jet privato costerà 500 milioni di euro, non lo so, ma ha detto una volta un mio amico pilota, ci ha detto tanti 500 milioni di euro, no? Ma fosse costasse pure 1 miliardo di euro, ma 10.000 miliardi, che te vuoi comprare 10.000 jet privati? Poi ti compri pure lo yacht, un altro 1 miliardo di euro? Ce ne restano 9.998, 999.998. Che capito? 10.000 miliardi di euro. Dico queste cose perché la gente non ci pensa. 10.000 miliardi di euro, ma che ce fai? Te puoi comprare tutti gli yacht che ti pare, puoi comprare tutti quanti. Che gli J. Piper che te pare, tutte le ville al mare che te pare, poi fate tutte le settimane bianche nei posti più belli del mondo, vattene in giro a visitare il mondo intero, le Hawaii, le Seychelles, che ne so, tutto quello che te ne le crociere, che ne so, che uno che ci può fare. Ma queste cose finiranno, finiscono un giorno. E poi? A quanto vedo, riprendo, hai già ben esplorato la mia anima e il mio cervello. Dice, correggo, titoli di credito perché il dollaro sta in calo. Forse stai percependo tutti i miei pensieri e ricordi? Le domandai con un certo timore. No, solo avverto ciò che liberamente vuoi che io conosca. E non temere. Perché il Signore è geloso custode del decoro e dell'intimità di ognuno dei suoi amati figli umani. Ovviamente lui conosce tutto, assolutamente tutto. Ma a nessuno fa male né intimorisce. La sua minuziosa provvidenza si attua anche in cielo. Lui è molto attento a che noi beati non facciamo il minimo errore o indiscrezione. Quando ci comunichiamo tra di noi, sia nell'interpenetrazione spirituale sia mediante il linguaggio. Lui era preoccupato che Teneri Ramata ci avesse una cognizione del suo interno, come quello che c'ha Dio. Cioè, anche qui, altra provocazione, sollecitazione per la nostra vita, no? Tu ci credi sul serio che Dio conosce tutto? Assolutamente tutto. Questa convinzione pratica o operativa è fondamentale per imparare una delle cose più importanti che dobbiamo imparare, cioè che è agire davanti a Lui, secondo coscienza. Dio vede anche no le nostre intenzioni profonde, i nostri pensieri profondi, non lo possiamo ingannare. Possiamo ingannare gli uomini eppure raccontarci le balle a noi stessi, ma davanti a Dio no. Il segreto per imparare a fare sempre la cosa giusta è mettersi davanti a Dio e dire: io farei questa cosa sotto gli occhi dell'Altissimo, dove del resto ci sto, direi questa cosa, penserei questa cosa. Allora, vado avanti. E quale forma di conversazione ti piace di più? Ah, noi preferiamo il dialogo spirituale, senza parole pronunciate. Così ci comprendiamo meglio. Il linguaggio terrestre è bello, gradevole e meritorio, ma talvolta un po' incerto. Risulterebbe insufficiente per esprimere il cumulo di nuove idee celesti. Inoltre, esistendo in cielo tutte le lingue della terra, riuscirebbe difficile, soprattutto ai glorificati inferiori come me, dominare tante lingue. Ti dirò uno dei nostri giochi celesti coi beati eminenti. Domandiamo loro una nozione elevata. Ci rispondono con squisita precisione in una delle lingue che conosciamo. Ci meravigliamo della loro spiegazione e crediamo di averla capita molto bene, ma poi si compenetrano con noi nella gradevolissima interpenetrazione intellettuale e mediante la dilettevole unione senza confusione di anima con anima, rimaniamo estatici nell'assaporare direttamente, senza parole, la stessa nozione che prima credevamo di avere capito. L'interpenetrazione, attenzione, intellettuale. Cioè, si fondono, pur rimanendo distinte, non confuse, le anime, si uniscono, si interpenetrano. E l'intelletto dell'anima superiore entra in contatto diretto con l'intelletto dell'anima inferiore e semplicemente gli rende noto, ecco, quel concetto in questa maniera del tutto sublime e assolutamente dilettevole. E inoltre chiarificante al 100.000%. Vuoi dire, obietta Riccardo, che il migliore linguaggio non riesce alla perfetta comunicazione? Infatti, non ne è capace neppure in cielo. Chi parla ha bisogno di selezionare i propri pensieri e esprimerli con chiarezza a colui che ascolta. Io sto sempre a chiacchierare, lo so abbastanza bene. L'uditore, partendo dalle parole che percepisce, qui state attenti voi, tenta di evocare la stessa cosa del suo interlocutore, ma non ci riuscirà totalmente, fin tanto che le loro anime non si compenetrano. Io tantissime volte, visto che parlo in continuazione, troppo pure probabilmente, e molte volte quando parlo dico, io mo dico una cosa, ma sta cosa non si può dire, cioè dovrei essere capace di far vedere alle persone non soltanto quello che sto pensando, ma come lo penso, ma come lo percepisco nel profondo. E questo non è possibile. Quindi sono sicurissimo che la mia povera comunicazione è limitata e sarà percepita e recepita in modo inevitabilmente limitato, non ci si può fare niente. Conclude Tenera Amata, quindi il linguaggio suggerisce, spiega, ma rare volte definisce e comunica con precisione. C'è qualche spirito che c'è il dono della chiarezza e della capacità comunicativa, quindi questo gap, diciamo che si riduce, ma c'è sempre, un po' c'è sempre. Riprende Riccardo, è ammirabile il bacio spirituale nel cielo. Mi dispiace non sentire sensibilmente quello che mi stai dando. Davvero l'universo è complesso e grandioso. Quindi attenzione, ci sono i baci spirituali che sono quelli che abbiamo appena visti, eh? Quindi queste interpenetrazioni spirituali delle anime, intellettuali. Risponde Tenera Amata, la creazione è infinita nelle sue cinque dimensioni, la tre dimensione dello spazio. Quindi le tre dimensioni dello spazio le conoscete, no? La lunghezza, la larghezza e la profondità, e in più il tempo e l'eternità creata che dopo vedremo, la famosa quinta dimensione, no? Le cinque dimensioni, quattro le conosciamo tutte quante, lo spazio con le sue tre dimensioni, no? Tutti quanti sappiamo che lo spazio c'ha tre dimensioni, i famosi film in 3D che adesso non vanno più di moda, no? Quindi si vede l'altezza, la lunghezza e anche la profondità. Il tempo, di questo tutti quanti ci abbiamo una cognizione. La novità, ciò che vedremo è uno dei tratti caratteristici di questo grande racconto, è la quinta dimensione, ossia l'eternità creata. conoscere questa dimensione è qualcosa di meraviglioso, eh. Che dopo vedremo, fatti specifica. E Riccardo dice: ma perché noi viatori ignoriamo queste verità? Ma non sarebbe meglio che Dio ci permettesse di conoscere tutte le sue meraviglie create, così come lo consente per le verità semplicemente scientifiche? Perché la sua divina rivelazione non comprende la descrizione dei paratempi, i picosecondi, dell'ineffabile comunione spirito tra i beati, quella che gli ha appena rivelato, e quella degli squisiti piaceri della vita futura, puntate precedenti, no? Quindi Riccardo sta dicendo: come mai alcune cose che mi hai detto tu, cioè i paratempi, i picosecondi, l'ineffabile comunione spirito tra i beati, quella di cui ho appena parlato, e quella degli squisiti piaceri della vita futura, vi ricordate nelle puntate scorse, no? Le grandi cuoche che fanno cibi succulenti, o la pallottolina che lei ha preparato per Riccardo con il cellofan delle sigarette. Dice: ma perché queste cose Dio non ce le ha dette o non le ha dette a tutti? Attenzione alla risposta. Perché Dio ha rivelato il necessario. Perché ogni uomo di buona volontà raggiunga la propria vita eterna, che è la cosa che veramente vale ed è necessaria. Quindi nella rivelazione pubblica, qui sta parlando della rivelazione pubblica, Dio non scende in troppi dettagli. E attenzione, quando Dio non scende in troppi dettagli, curiosare da noi stessi è peccato. È peccato. Invece, se attraverso una rivelazione privata Dio ritiene di dare qualche ulteriore dettaglio che non aggiunge nulla di sostanziale a quello che è necessario. Questo è sempre il rapporto tra le rivelazioni private e la rivelazione pubblica. È semplicemente una delucidazione, è una focalizzazione, è un approfondimento, appunto è un dettaglio, è un accessorio, è un optional. Che certamente è. Allora, se tu prendi la macchina che ha il cambio e il volante, quella è la macchina, cammina. Ma se c'ha il servosterzo, gli alzacristalli elettrici, parliamo degli optional obsoleti, l'aria condizionata, ma ci stanno anche, che ne so, i fari che si accendono da soli, il tergicristallo che si accende da solo, il cambio automatico, l'autoparking, è sempre una macchina. Però, insomma, è molto più bello una macchina così, no? Ma è sempre una macchina. Non è che diventa una ruspa, è una macchina. Però, insomma, se viaggi in una macchina con tutti quanti i comfort, è diverso che se tu pigli notte 50 tu con la levetta, no? Sempre macchine sono però. Prosegue Tenera Amata. È lenta la pedagogia della parola rivelata a causa del maledetto peccato della rozzezza umana causata da tanta superbia, egoismo, inganno ed erotismo. Capiamo anche perché lenta la pedagogia della parola rivelata, sia in pubblico che in privato. Guardate quante volte Tenera Amata parla del maledetto peccato. La causa di tutti i mali, l'unica causa di tutti i mali. Riccardo chiede: tanto è funesto il peccato? Risposta: tanto. Che se l'uomo fosse stato meno peccatore, avremmo approfittato di più della redenzione. E l'umanità, in mezzo alle tribolazioni indispensabili per la prova, che è la vita mortale nel regime di fede, potrebbe intravedere meglio la stupenda felicità che l'attende nel cielo e si sforzerebbe di raggiungerla mediante il compimento fedele e perseverante dei comandamenti e consigli del Redentore. Considera che nessuno dà qualche cosa né in terra né in cielo, se non nella misura che sa come sarà ricevuto il regalo che dà. Ed è molto triste constatare che l'umanità e il mondo in genere mai ha voluto prepararsi per conoscere e gustare un po' di più la divina rivelazione. Qui siamo interpellati tutti quanti. Chi è che conosce molte cose belle del Signore? Chi le cerca? Chi le cerca? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Hai fame e sete di Dio? Vedrai. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati. La giustizia è questo, la giustizia è essere giusti, significa essere conformati a ciò che Dio vuole, essere santi. Padre, sia santificato il tuo nome, la prima petizione del Padre nostro, ma ti pare che Dio non esaudisce? Ma a chi gliene importa qualcosa di queste cose? A chi? A pochi. Pochissimi. Prosegue Teneramata. Il mondo si è, in quanto tale, si è fermato a godersi sanamente o peccaminosamente il piacere e la soddisfazione che i sensi corporali producono immediatamente. Puoi anche avere quelli leciti. D'accordo? Ti vedi un bel film pulito e morale. Ti mangi un bel piatto di pasta, ti intrattieni in casta intimità con tua moglie o con tuo marito, tutta roba lecita. Tipo, si può, non ci sta, non c'è peccato in queste cose. Ma sono sempre piaceri sensibili, cioè anche se tu rimani nell'ambito del lecito, è tutta qui la vita? Non c'è nient'altro? È tutto qui? Non parliamo di quando si scade poi nell'illecito, cioè la vita è semplicemente in ciò che ti trasmette il piacere e la soddisfazione dei sensi corporali? Ti senti una bella canzone, diletto per l'udito, no? Un altro senso. Usi un buon profumo, diletto per il naso. Ma, ripeto, è tutto qui? Prosegue Teneramata, tributa culto di latria al vitello d'oro del benessere temporale. Culto di latria, sapete che il culto di latria è un'espressione tecnica, che significa il culto di adorazione dovuto a Dio solo. L'adorazione. Ma l'adorazione che significa? Tu sei la cosa più importante di tutti. Come stiamo noi dinanzi a queste cose? Non di solo pane vivrà l'uomo, ha detto Gesù nel Vangelo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Oggi è mercoledì, chi fa il digiuno il mercoledì e il venerdì? Perché si fa il digiuno? Uno dei motivi principali, introdotto da Gesù nel Nuovo Testamento, non solo per espiare le colpe, anche, non solo per impetrare le grazie, anche, non solo per offrire una penitenza per la conversione dei peccatori, anche. Oppure offro una penitenza per lo sconto dei peccati di mio padre e di mia madre che sono morti e gli offro sta penitenza per loro. Si possono fare tutte queste cose col digiuno. Ma cosa dice Gesù quando gli dicono: come mai che tu non digiunano? Possono gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro? Verrà il giorno in cui gli sarà tolto lo sposo e allora digiuneranno. Che cos'è il digiuno? È il contrario di questa cosa, è dire: a me, signore mio, dei piaceri dei sensi non me ne importa niente, io manco mangio, non soltanto i piaceri, come dire, peccaminosi, ma pure quelli necessari, perché mangiare è una cosa necessaria. ma posso stare un giorno senza, pure due, pure tre, pure una novena posso fare di digiuno. Gli eroi alla Mosè, alla San Francesco, se fanno 40 giorni come nostro Signore. Non sono morti per quello, eh? Quindi vuol dire che si può resistere. Quanto siamo capaci noi di dire al Signore, a me non mi importa, io voglio conoscere te, a me mi interessano le cose tue. Non mangio, non bevo, non dormo, qualunque cosa. Per niente non si può, perché poi insomma di giorno comunque a tempo limitato, dormire, non è che uno non può dormire la notte. Meglio specificare che dopo, però un po' di meno sì, per amore del Signore. Prosegue tenera amata. Poco ha cercato il Signore direttamente, per se stesso, per amore a Lui. Eppure Dio è sommamente degno di questo. Dio lo si cerca per se stesso, perché è il sommo bene, diceva San Francesco, l'unico bene. Il Signore Dio del cielo e della terra. L'uomo ha preteso di ricevere senza niente dare. Tutti stanno a presentare le liste a nostro Signore. Guai a lui, secondo gli esseri umani, se non fa esattamente tutto quello che chiedono. Capite? Perché se Dio non fa tutto quello che gli dico, io non me lo filo più. Chi ci va più a messa? Chi ci va più in chiesa? Chi prega più? L'ho pregato, non me l'ha data quella cosa? E io non lo prego più. Questo pensano un sacco di esseri umani. Magari non stava pensando, dice, tu hai pregato, dice, e tu che cosa mi hai dato perché io dovessi darti una grazia? Padre Pio diceva che tutte quante le grazie si pagano. Non nel senso, come dire, materiale del termine, no? Che cosa hai fatto tu per ottenere quella grazia? Che basta che te prendi uno studio e dice, dammi questo, come se quello fosse... Che ne so, al tuo servizio, che lo puoi comandare a bacchetta, o al nostro Signore. L'uomo si è riempito di superbia e di egoismo e si rivolge a Dio soltanto per esigere spiegazioni. Quindi, o chiede, oppure, perché questo, perché quest'altro, perché quell'altro? È noto che ci fu negli anni passati un noto cantautore che diceva, qui dobbiamo mettere Dio sul banco degli imputati. E io mi deve rendere conto di una vita che ho vissuto e che non ho capito. Mi spieghi? Mi dia spiegazioni. Dio che deve dare spiegazioni a noi esseri umani. Casomai sarà Dio che ci chiederà tante spiegazioni da dare a noi, a suo tempo, eh. Tante ce ne chiederà di spiegazioni, più che legittime. Prosegue tenera amata, certamente non sto affermando tutto questo come un rimprovero agli altri. Sia tu che io siamo stati superbi, egoisti, sensuali, peccatori, insomma. Ah, ma se l'umanità prendesse sul serio il nostro Dio. Io sono sicura, in nome dell'amore con cui l'Altissimo la ama, che il breve passaggio per la terra lo troverebbe più sopportabile, più logico, più semplice e più fruttuoso. Cioè, noi passiamo in questa valle di lacrime, camperemo in questa valle di lacrime, tanto quanto conosciamo il Signore. Lo prendiamo sul serio, ci apriamo al suo amore. Si campa meglio stando con lui, molto meglio. Dice, continuando, non sto parlando di guadagni in pesos, che è la moneta del Messico, no? E in centesimi, ma di pace presente e di gloria futura. E che cos'è la pace cristiana? Adesso sentite, qui tanta roba. La pace del Signore è la più grande felicità sulla terra a cui può aspirare un viatore. Tutto tu ti senti profondamente in pace con te stesso, con Dio, con il prossimo. Se possibile, per quanto dipenda da voi, diceva San Paolo, vivete in pace con tutti. E se qualcuno ce l'ha con te, cerca di riconciliarti. Provaci. E se qualcuno ti ha fatto del male, perdonalo. Questa pace non è il mero equilibrio tra opposte fazioni, non è l'assenza di guerra, né la quiete della pigrizia, né il silenzio degli oppressi, né la tranquillità del cinico, e nemmeno l'euforia instabile di questo nuovo umanesimo, attenzione, cristianoide e filantropico, ma senza vero amore di carità. Umanesimo cristianoide filantropico. Oggi questo è dominio pubblico. Quest'opera è del 78, sono passati 45 anni, non è che adesso sono cambiate le cose in meglio, eh? Questo è diventato proprio adesso patrimonio universale e comune. L'euforia instabile del nuovo umanesimo cristianoide filantropico. Oh, la pace del Signore, attenzione, qui c'è proprio la definizione dei classici di Sant'Agostino e di San Tommaso, è la tranquillità nata dall'ordine autenticamente cristiano. Cos'è? Da dove nasce la pace? La tranquillità dell'ordine si definisce. E che significa? La pace nasce dall'ordine. Tu stai al posto tuo, osservi la legge di Dio. Lo ami, cerchi di conoscerlo meglio, lo conosci, tendi all'ordine e all'equilibrio tutti quanti gli atti che hai, equilibrio anche esteriore, equilibrio anche nelle tue cose, nella tua casa. Ordine, ordine, la tranquillità nata dall'ordine, autenticamente cristiano. Ancora, la calma spirituale profonda che scaturisce dal dovere compiuto. Non a motivo di quell'umanesimo che mette in disparte l'Altissimo, ma per amore al nostro Dio. San Paolo scrive: tutto quello che fate, fatelo di cuore, come per il Signore e non per gli uomini. Allora, oggi io mi sento profondamente tranquillo. Calma spirituale profonda. Ancora. La pace è il silenzio interiore molto allegro di chi si riposa, attivo e fiducioso sulla parola divina. Attenzione, silenzio interiore. Quanto amiamo il silenzio? Il silenzio è una cosa bella, non è una cosa brutta. Ovviamente se è riempito. Se io sto in silenzio e sto nel vuoto, quella non è una cosa bella. Ma il silenzio di un santo è un silenzio pieno di tante belle cose. E molto allegro, attenzione, questa è un'altra spia, l'allegria. L'allegria. Una persona che è piena di Dio ha il volto, il tratto generalmente, ilare, sorridente. E c'è anche l'allegria, scherza. Guardate che Dio scherza, eh. Dio scherza e fa i giochi. Non lo dice solo Terna Amata, è scritto nei libri di cielo di Luisa Piccarreta. Dio scherza, fa i giochi e gioca con i suoi figli. Ma tutto quanto il nostro desiderio che abbiamo noi di divertirci, e ci divertiamo quando giochiamo, no? Ma da dove viene secondo voi? Chi è che ce l'ha messo nel cuore? Ma ce l'ha messo il nostro Signore. È chiaro che qui su questa terra A causa del maledetto peccato, molte volte dobbiamo moderarci un po'. E qui purtroppo non stiamo più solo per divertirci. Così sarebbe stato se non ci fosse stato il maledetto peccato, eh? Sarebbe stato molto più divertente la vita terrena. Ma questo desiderio, quindi il desiderio di divertirsi, di giocare, di fare delle cose gradevoli, divertenti, da dove viene? E questo sarà quello che ci aspetta in paradiso, questo qui è. Su questa terra purtroppo non lo possiamo realizzare né con perfezione e nemmeno con, come dire, ininterrotta dedizione. Perché a causa del maledetto peccato, noi qui abbiamo dei doveri da compiere, abbiamo dei lavori da fare, tante altre cose. Per cui i divertimenti e i piaceri sono regolati da una ben distinta virtù che è quella cardinale della temperanza. Però chi sta nella pace con la P maiuscola è molto allegro e si riposa attivo e fiducioso sulla parola divina. Attivo e fiducioso sulla parola divina. Bellissimo. Ma senza ritagli né adulterazioni dogmatiche. Non ci mancherebbe altro che la pace cristiana fosse come quella calma premonitrice che precede le tempeste. Senza ritagli né adulterazioni dogmatiche. Si riposa sulla parola di Dio, ma non è. Capite? Questo è, lì sta facendo un pochino di polemica su alcune tendenze teologiche contemporanee. Allora, qui bisogna evidentemente capire un pochino di background, no? Un tempo, anche nei seminari, che cosa succede? Si studiavano molti dogmi, soprattutto attraverso l'ausilio di San Tommaso d'Aquino, che è alla base dei grandi concili dogmatici della Chiesa. E poi, diciamo così, la Sacra Scrittura, sì, c'erano dei corsi, ma fondamentalmente si doveva uscire ben formati sui dogmi, perché la cosa più importante che la missione della Chiesa deve compiere è di essere fedeli alla verità. Le elaborazioni dottrinali e dogmatiche dei concili o delle dichiarazioni non sono altro che una definizione, quindi compiuta e blindata di una verità che deriva sempre, come tutte, dalla rivelazione pubblica, cioè dalla parola di Dio. Allora, succede che negli anni 60, ma già prima, si riscopre questa importanza della parola di Dio. Quindi parola di Dio, la Bibbia, la Bibbia, la Bibbia, la Bibbia. E con quale variante però? Basta con tutti questi dogmi, tutte queste cose qua che la Chiesa ha fatto, che si è inventato, dice. Torniamo alla parola di Dio, nutriamoci di quella e lasciamo perdere tutte quante queste cose. Discorso apparentemente suadente, ma fuorviante. Perché i dogmi non si possono ritagliare, né si possono adulterare. Guardate che non c'è bisogno di fare troppi commenti, anche con i recentissimi fatti di attualità o corsi. Altro che adulterazioni dogmatiche e ritagli, qui stiamo andando parecchio oltre. Quindi, perché qualora dovesse succedere, vorrebbe dire che la pace cristiana, questo è quello che dice tra le righe, si trasformerebbe nella quiete prima della tempesta. Perché è chiaro che il nostro Signore non permetterebbe una cosa di questo genere a lungo andare senza intervenire. Per il bene evidentemente delle anime, no? Ora, nell'attuale regime della fede, il creatore desidera il progresso umano, ma solo quello che si raggiunge mediante l'amore di carità, non lo pseudo progresso raggiunto dal puro umanesimo. Guardate quante volte ricorre questo contrasto in questo brano di oggi, no? Tra l'umanesimo cristianoide, l'umanesimo filantropico, il puro umanesimo. Quante volte? Contrapposto a che cosa? Contrapposto all'amore di carità. alla dimensione della fede. Non credo che sia il caso di spendere troppe parole a commentare questo passaggio e a comprenderne la straordinaria attualità. Oggi c'è tutta quanta un'operazione di pressione e a volte, come dire, è già entrata anche dentro la Chiesa, fondamentalmente di, come dire, evitare di parlare. E su quegli elementi, per esempio, propri della nostra fede, che sono, li chiamano così oggi, divisivi. Di questi no. Siccome dobbiamo cercare di entrare in contatto con le altre religioni, col mondo, eccetera, eccetera, parliamo delle cose che ci uniscono. Questo approccio, certamente, è un approccio che, da un punto di vista pastorale, come aggancio con queste realtà ci può stare. Attenzione però, non può finire tutto qui, non possiamo fermarci qui. Non possiamo. Non possiamo non dire che Dio è uno e trino. Non è semplicemente uno. È uno e trino. Gesù Cristo è il figlio di Dio incarnato, non è un uomo qualunque. Non possiamo stare adeguarci allo pseudo-umanesimo, non possiamo e non dobbiamo. Non esiste soltanto l'amore del prossimo, esiste innanzitutto l'amore di Dio. Non esiste che tu fai volontariato sociale, aiuti i poveri, tutto quello che vuoi. E poi se vai in chiesa a fare la comunione, ti fai la comunione in stato di peccato mortale e se buono manca stare 2 minuti con il nostro Signore. Per l'umanesimo filantropico non c'è problema, non c'è. Tanto non sono queste le cose importanti. L'importante è che tu sei impegnato socialmente e che fai qualcosa di bene per il prossimo. L'umanesimo cristianoide, filantropico, è quello che prende il secondo comandamento, il grande comandamento dell'amore, e seppellisce il primo, che è il comandamento il più grande di tutti. Perché quando Gesù gli hanno chiesto qual è il più grande di comandamento, non l'ha detto amare il prossimo tu come te stesso. Ha detto, il primo è, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questo gli ha detto nostro Signore agli scribi e farisei. E il secondo è simile al primo. Il secondo però. Io ho fatto tante catechesi, omelie, interventi. Noi stiamo nel tempo in cui il primo comandamento è completamente dimenticato. Si badi per esempio, perché nel comandamento dell'amore di Dio, per esempio, sono inclusi i primi 3 comandamenti del Decalogo, no? Mettere Dio al primo posto. Non avrei altro Dio lì fuori di me. E chi lo fa? Ma quanta gente entra in chiesa e neanche si fa azione della croce? Chi è che entra in chiesa e ha imparato a fare la genuflessione davanti al Santissimo Sacramento? Questi sono doveri gravi, sono peccati gravi non farli. Quanta gente durante le messe sta in piedi dall'inizio alla fine, sono buone a inginocchiarsi manco durante la consacrazione, quanta gente piglia per fare la comunione se ne esce, quanta gente la confessione se la mette sotto i piedi, non si confessa, va a far sedute psicologiche, chiacchierate, l'ho detto 100 miliardi di volte queste cose qui, no? Questi sono tutti quanti i peccati contro l'amore di Dio. Chiese vuote. Trascuranza del progetto domenicale, lavori e shopping di domeniche, bestemmie, irriverenze. Puro umanesimo, pseudo progresso. Il progresso cristiano, dice Tenera Amato, consiste nello sforzo continuo di ognuno di voi e di tutti per compiere integralmente la legge di nostro Signore Gesù Cristo. Ha capito qual è il progresso? Questo vale per i progressisti, i progressisti progressisti sono gli animati dall'umanesimo cristianoide filantropico, che ormai è gettonatissimo. Ma il progresso cristiano, che non è il progresso mondano, consiste nello sforzo continuo di compiere integralmente la legge del Signore nostro Gesù Cristo. Integralmente, detto della... integralisti. Ah, integralisti. Cioè, questi epiteti, integralista, estremista, talebano, esagerato, ah, oggi sono le più grandi offese che si possano fare. E vengono rivolte esattamente a chi cerca di continuare a vivere il cristianesimo come è sempre stato, quindi come santa fede divina e cattolica, e non nella sua variante adulterata del cristianesimo filantropico e umanistico, oppure umanesimo cristianoide e filantropico, come preferiamo. E Stella Amata conclude il brano di oggi: non avere paura del dolore, della malattia e della morte. È molto breve il passaggio del pellegrinaggio di questo mondo. Nessuna paura. Sono tutte quante monete che ci porteranno in cielo. Ricorda che quando l'uomo si sdivinizza col peccato, bellissima questa espressione, immediatamente si animalizza con la concupiscenza. E quando si perde la fede nel nostro Dio, si incomincia a credere nelle sciocchezze. Ma quanta gente che sta piena di sciocchezze, proprio stupidaggini, sciocchezze. L'uomo sdivinizzato col peccato, espressione un'altra, espressione veramente un cult, bellissima, no? E tutti terrorizzati dal dolore, dalla malattia e dalla morte. Ne sappiamo qualcosa noi? Questi nel 78 non sapevano, non avevano neanche la più pallida idea di quello che avremmo vissuto 50 anni dopo, scarsi. E l'abbiamo vissuto. E non ci rifletteremo mai abbastanza, non ci torneremo mai abbastanza a rifletterci sopra. Chi è che ha vissuto quello che si è vissuto terrorizzato dal dolore, dalla malattia e dalla morte? Non tutti hanno vissuto in questo modo, eh? Non tutti si sono fatti prendere dal panico o hanno bevuto tutto quello che si diceva dalla mattina alla sera con i tamburi in continuazione a tutte quante le cose, uno sta a vivere sotto la cappa del terrore assoluto che si tagliava con coltello, con atteggiamenti e con manifestazioni veramente che facevano, se non c'era da piangere, sarebbe stato da mettere a ridere. Per la ridicolaggine che si è raggiunta in certi estremi. Quindi, oggi è stata una grande lezione, ecco, teologica di Teneramata, partita dalla spiegazione di che cos'è una rivelazione privata e di come si distingua da quella pubblica. E poi è sfociata nella stigmatizzazione dell'umanesimo cristianoide e filantropico, che non c'ha niente a che fare con la fede. Bene, amici, ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata. Tanto vi saluto con la mia benedizione e che Dio sempre vi benedica e la Madonna sempre vi protegga. Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al peccato originale e alla dimensione sessuale connessa con esso. Peccato originale, che brutto inizio di, vabbè, espressione un po' non proprio felice. Bene, siamo arrivati alla terza ed ultima parte di questo ciclo di catechesi, dove cominceremo a vedere come ampiamente annunciato precedentemente, la rivelazione, ovviamente privata, fatta da Gesù,